Funtime Radio presenta Ludico Forum. Ah, belli di casa, benvenuti a questa nuova diretta, prima diretta, non lo so, ma scusate la posizione un po', diciamo, asburgica della webcam, cercherò insomma di guardarvi in qualche modo, ma tanto poi chi se ne frega, insomma, non è questo lo scopo della serata, quindi benvenuti in Runtime Radio, benvenuti a questa diretta sperimentale, che forse, ragazzi, forse, ci scusiamo per il ritardo tra l'altro, perché in effetti forse ce l'abbiamo quasi fatta, non lo so. Comunque con noi c'è Pixel Deb. Ciao Pixel. Buonasera a tutti. Ciao, tutto bene? Come stai? Tutto bene. Io avevo visto Francesco dentro, però improvvisamente non c'è più un'altra volta. Questo mi fa veramente tanto piacere, no, immagino. Aveva scritto che era riuscito a entrare. Infatti lo vedevo io, Francesco, ma adesso non lo vedo più. Lo vedo, eccolo qua, no? Aspetta, no. Fermi tutti. La finta. Questa sei tu, questo sono io. E lui, eccolo qua. Oh, incredibile, oh, ragazzi. Grande. Che momento di grande emozione. Ciao Francesco. No, è troppo bello, eh. Non ci sente, ma no, vi sento, però se devi passare questa cosa, che è colpa mia quando tu sei incapace. Chi ha detto che è colpa tua? Qualcuno, tu Deborah, hai sentito qualcuno, no, che dice? Io non ho detto niente. Io non l'ho detto, lei non l'ha detto. Poi vostra. Poi ricordate che, come adesso andiamo a mostrare, Deborah, tra l'altro, cioè destrezza elevatissima, insomma. Quindi... Yeah, però sono stupida come la merda. Allora, ragazzi, che cosa andiamo a fare questa quindi sera? Stai sottintendendo che la merda sia stupida? Sì, un po' per partito preso, perché non lo so, obiettivamente un po' per partito preso. Non abbiamo dibattiti della merda. Insomma, sulla quale tra l'altro io vorrei sapere. Ah, è vero, non è Runtime by Night, non si parla di me. Allora, io vorrei sapere se esiste un modo per attivare la chat, perché se no, che ci siamo venuti a fan? Perché salutiamo Vincent Valentine. La vedo. Dove la vedo? Chat. Ah, eccola, la chat, laterale. Sì, oh, la eccola, loro, la vedo anch'io. Okay. YouTube. Sì, sta laterale. Ok, sì, sta laterale a noi, però loro non la vedono. Questo è il problema. Ok. Quindi, mi piacerebbe sapere se esiste un modo, caro Talk Studio di Streamlabs di merda, diciamocelo, se c'è un modo, come sugli altri programmi, di attivare questa fottuta chat anche per il pubblico. Sarebbe una cosa carina, anche perché magari, ecco, non so, cose belle. Allora, ragazzi, scusate, ma è tutto molto sperimentale questa sera, eh? Proprio la chat stessa è sperimentale e la diretta è sperimentale. Allora, cosa vogliamo fare noi questa sera, mentre che vediamo se Francesco ce la fa a condividere la sua scheda, scheda. È vero, devo condividere la scheda, grazie. La scheda, sì, ce la fai, quella don't di show, chat, I understand, let's proceed, okay. questa qua. Condividi. Allora, sapete che molto tempo fa esistevano i cosiddetti mod, ossia praticamente quei giochi di ruolo testuali che insomma cercavano di far vivere l'esperienza di un gioco di ruolo carta e penna alle persone anche insomma da casa propria, insomma online. Erano tutti giochi completamente testuali, c'era tutta una gestione del mastering e via dicendo, però chiaramente erano giochi che avevano le proprie limitazioni, anche perché sia la tecnologia che i tempi erano insomma quelli che erano, e poi è un sistema che è andato piano piano in disuso, mentre che insieme alle avventure testuali questi sono sistemi che sono andati un po' insomma morendo lentamente, anche se poi oggi c'è un po' una sorta di ritorno, un po' di revival in questo tipo di discorso. E allora noi che cosa abbiamo pensato di fare, visto che abbiamo visto che ci sono già state delle sperimentazioni? Poi vi racconto, vi faccio un attimo un excursus molto breve. Ad esempio Andrew Channel, che è un canale YouTube di videogame italiano, lui gioca prevalentemente a giochi strategici, ha fatto una sorta di sperimentazione con Project Zomboid, che insomma probabilmente molti di voi conoscono, e che praticamente lui ha fatto questo suo gameplay impostando però su ChatGPT delle regole, e tramite quelle regole lui poi ha gestito praticamente il suo gameplay, cioè lui rimaneva all'interno di uno schema gestito anche dal master, che era ChatGPT. Allora noi abbiamo fatto una sorta di pre-esperimento durante Runtime by Night, la scorsa puntata, venerdì scorso, e dando dei parametri molto semplici a ChatGPT, perché volevamo vedere se effettivamente questo strumento può fare da master praticamente all'interno di un gioco di ruolo, dando delle regole molto articolate. Perché poi quello che abbiamo visto è che Andrew Channel, per esempio, lui ha dato veramente delle regole importanti alla chat, al chatbot. Ora noi utilizzeremo, non sappiamo bene se è la versione 4 gratuita o se è la 3.5, non è chiaro questo, perché in teoria, insomma, per accedere veramente alla versione 4 bisognerebbe pagare. Se si tratta di pagare 1 euro, 2 euro, 5 euro al mese, uno lo può anche fare, ma pagare 20 euro per giocare a ChatGPT non ce ne può fregare di meno. Quindi noi utilizziamo quello che OpenAI ci mette a disposizione, ossia la versione gratuita, che non sappiamo se è la 3.5 o la 4, non sappiamo. Molti parlano bene della 4 perché come versione, perché pare che sia molto più creativa, molto più articolata e sarà molto più importante il tipo di lavoro che riesce a realizzare. Detto questo, allora ci siamo sentiti fra di noi e abbiamo detto: vabbè, proviamo a fare una cosa un po' più strutturata rispetto a quello che abbiamo fatto venerdì sera. Volevamo farlo con Marco Gualdi, con Francesco, volevo coinvolgere Deborah chiaramente, e poi alla fine l'abbiamo fatto, cioè nel senso abbiamo detto ok, proviamoci, anche se fino a 3 minuti fa non sapevamo se avremmo mai potuto fare questa cosa. Allora, intanto diamo, questa intanto è la schermata di 3,5 ci dice Mattia Ser qualcosa. Ok, ciao a tutti intanto. Ragazzi, vorrei mettere la chat. Ciao Gianotto, ciao Vincent, ciao. Vorrei mettere la chat sullo schermo, ma non so come fare. Allora, adesso noi che cosa facciamo? Noi abbiamo deciso di fare un poliziesco basato sulle regole di Dungeons and Dragons. Ora Francesco magari solo l'inciso, se ci seguono da YouTube la chat già ce l'hanno, quella là nativa di YouTube. Sì sì, però è sempre carino mostrarla la chat a schermo, insomma. Comunque sì sì, è vero che sì, vabbè, loro si stanno una chat dentro una chat, diventa ridondante, però vabbè, ok, vabbè, ammazza che cagazzi, scusa. No, che cagazzi, tu che vuoi la chat dentro? Vabbè, ma dai. Sì, perché la gente gli piace vedersi. Avanti, dai, dai, dai, dai, che bisogna fare? Ok, vai. Quindi praticamente noi abbiamo costruito un incipit narrativo, che è un poliziesco. Abbiamo costruito 3 personaggi, 2 uomini e una donna, giustamente. E la donna gli abbiamo la donna sei tu, esatto. Ma no, scusa, comunque gli abbiamo dato delle caratteristiche, delle statistiche praticamente su forza, destrezza, saggezza, quelle di Dungeons and Dragons, quelle di Dungeons and Dragons. Però il bello è che noi gliele abbiamo date, abbiamo fatto rollato i dadi e sì, esatto, usciva. A me va benissimo, questa è una precisazione importante, cioè noi nella chat privata che ci avevamo noi su Telegram abbiamo tirato 2 dadi per ogni caratteristica per ognuno di noi e alla fine è uscito fuori che Francesco è un uomo fortissimo. No, però poi andiamo a vedere anzi quasi non lo so, è mio difficile mettere le caratteristiche a schermo, però no, ce l'ho io, però non so perché non appaiono tutte, appaiono solo quelle mie di Deborah praticamente, sempre se ci riesco, perché qui provaci. Sistema, ecco, vedete, cioè questo è per farvi capire, è perché uno screen questo, sì, più che uno screen è il aspetta, che voglio vedere se ci riesco ad allargarlo, non te lo dico, sto per sperimentare, attenzione, riesci a scorrerlo? Vabbè, puoi scorrere, grande, vabbè, nel frattempo leggiamo Simon Pizzi che c'è. Vai. Allora innanzitutto è uscito forza. Qua abbiamo deciso arbitrariamente che il massimo è 12, però vabbè, sì, perché abbiamo tirato 2 dadi da 6 perché sono quelli che Telegram ti dà per standard, no? Cioè noi ci siamo messi a cercare dei plugin per avere i dadi da 64.000 facce, insomma, ce n'è fregato niente. Quindi io forza 5 su 12, destrezza che è 9 su 12. Ta capi, dai. Dai, sì, tutto sommato, intelligenza 8 su 12, sono abbastanza intelligente, devo dire la verità. Saggezza. E qui, insomma, saggezza 6 su 12. Meglio crino, dai. Sì, però, a 51 anni in teoria dovrei essere più saggio, no? Però, però in realtà... Però costituzione mi è andata abbastanza bene, cioè, diciamo, posso prendere 12. Abbastanza botte, che 9 su 12, mentre che il carisma, sono un tipo carismatico. Vabbè, questo è sempre sì. Invece veniamo a Deborah, che c'è un personaggio un po' come posso dire? Merda. che si chiama Deb Pix, cioè Pix di cognome, giustamente, perché ed è un agente, però agente lei, Deb Pix. Ah già, esatto, che lei è tipo un cadetto praticamente, per capirsi, insomma. Perché lei ha la forza 4 su 12, praticamente è un po' una pippa, insomma. Come nella realtà che non c'ho forza proprio, quindi a malapena tiene in mano una pistola, insomma, perché la pistola la deve tenere una pistola, cioè, diciamo. Però la deve tenere, insomma, c'ha, però devo dire destrezza, cioè quasi sì. Ma infatti è la cecchina del gruppo, perché io spero che me ne vado via. Lei scappa, io scappo, vi lascio morire. E spara, ma anche la cecchina del gruppo con sta, esatto. Anche riesco, se probabilmente riesco ad alzare un fucile, probabilmente forza, non riesce a tenere no. Il fucile in teoria potrebbe essere cecchina, ma allora l'arco e freccia, secondo me, perché qui entriamo in dungeon, esatto. L'arco e freccia, comunque c'ha intelligenza, cioè, non è stupida, ma non è media, esatto, saggezza proprio. E invece la saggezza, perché essendo un cadetto, sono spericolata. No, essendo un cadetto, è giovanissima, quindi no, ok, quindi insomma c'è sta saggezza che è un po' un problema. Non ho capito, un cadetto. Cadetto? Non ho capito. Vabbè, che c'ha la costituzione. Insomma, è meglio che deve fare attenzione, molta attenzione. Io morirò male, vabbè, ma fa niente. Ma non è detto, carisma. Perché... E poi il carisma medio, insomma, medio pure il carisma. Così, adesso devo... Arriviamo a Francesco. Vediamo se che ci bello, riusciamo. Parlassi in terza persona. No, aspetta, che sotto c'è il testo regolamentare che poi dopo andiamo ad inserire. Comunque, ci vedo, forza 12 su Francesco, 12, quindi... È una potenza incredibile. Hulk? Destrezza, però 3 su 12, cioè, lui c'ha la potenza nelle mani, però insomma, per darti un cazzotto ci mette un pochetto. Insomma. Intelligenza, dai, cioè, le cose base riesco a fare. Saggezza 11 su 12, cioè, saggissimo. Costituzione 9 su 12, magari va bene. Carisma 9 su 12. Io ho visto queste caratteristiche e ho detto, ma questo è Mario Brega. Le caratteristiche di Mario Brega, cioè, fortissimo, forse sì, non brillantissimo. Destrezza quasi, però saggissimo, è abbastanza carismatico. Diciamo che è Mario Brega, quindi però Mario Brega, e quindi tu ti sei preso Mario Brega come personaggio. Adesso, ora, giustamente, Tenente Mario Brega, tu sei il comandante qua, insomma. No, vabbè. Dai, sei il comandante, dai. Comunque noi abbiamo deciso di dare un'impostazione che io ti ho scritto sulla chat, giusto, Francesco? E io mi appio adesso... a incollare. Proprio a incollare, la vogliamo prima leggere? In teoria la dovremmo leggere, così almeno... Ok, prima di prendere via. Ciao, ti chiedo di aiutarci a giocare ad un gioco di ruolo nel quale tu farai il master, tu, ChatGPT. Le regole basilari da usare sono quelle di Advanced Dungeons and Dragons, anche se l'ambientazione sarà contemporanea e la storia sarà un mistero poliziesco. In quanto master dovrai raccontarci una storia gestita interamente da te e dovrai metterci nelle condizioni di fare delle scelte e delle azioni con una certa libertà di movimento, ma ogni volta che faremo delle scelte dovrai calcolare tramite il lancio di dadi se riusciamo o meno ad avere successo. Per questo calcolo probabilistico sarà necessario usare le regole di AD&D in considerazione anche dei nostri parametri e parametri in quattro giocatori. Noi siamo tre giocatori ed ognuno di noi gestisce un personaggio. I personaggi sono Simon T. Pitts, che ha forza 5-12, le caratteristiche di prima. I tre personaggi sono poliziotti in una storia poliziesca. Ovviamente. Aspetta, facciamo tenente. Oh, mettiamo tenente, cadetto, mettiamo queste. Ok, va bene. Che i sotterranei, non ne capisco, di gradi militari. Vabbè, ma Simone, quindi che è? Cioè, tu sei tenente, tu cadetto, sei tenente. Simone... Lei è cadetto, quindi proprio sta lì, tipo, insomma, in prova praticamente. E Simone? Tu sei? Io sono agente normale. Agente normale, semplicemente. Io sono appena uscito dal controllo del traffico. Con forza vabbè. I tre personaggi sono i poliziotti in una storia poliziesca. Tutti loro hanno in dotazione una uniforme da poliziotto, una pistola con due caricatori, un taser per lo stordimento, un piccolo manganello, tre manette ciascuno, una piccola torcia elettrica tattica e una radiolina per comunicare tra loro con la centrale. Ma veramente tutta sta roba i poliziotti. Vabbè. Ma più che altro io con la mia poca forza non riesco a portare tutta sta roba. Infatti cammini via ancora più piano. La storia, no, la destrezza. la storia parte con i tre poliziotti che ricevono una misteriosa chiamata tramite la radio della loro auto di servizio, che poi stanno a tre sti poliziotti, ma perché? Che chiede loro di indagare su un non meglio precisato evento che sta accadendo in un indirizzo specifico. Arrivati a questo indirizzo, si trovano davanti ad un'enorme casa abbandonata nella quale si svolgerà la nostra storia. Sta a te inventare l'evento che fa alla fine. Che è la fine di questa storia. Il mistero che si nasconde dietro questa missione, ogni singola situazione che accadrà da quando i poliziotti sono fuori dalla casa fino a quando inizieranno ad investigare. State a condurre i personaggi al successo della storia, al fallimento, sempre seguendo le regole del gioco di ruolo per come lo abbiamo indicato. Insomma, dovrei creare una storia appassionante e misteriosa che ci tenga incollati fino alla conclusione dell'avventura. Lo stile della storia deve essere simile ad un poliziesco ricco di mistero, come una storia di crimini che vanno risolti. L'edificio abbandonato è il teatro della storia. Il tono deve essere di tensione e credibile. Puoi anche aggiungere qualche elemento paranormale se ritieni, ma senza esagerare. Preferiamo una storia realistica. Ed ora possiamo iniziare. Mo ci manda a fanculo tutto. Vai con Dio. Mo esplode, esplode. Ah, bello. Subito. Ammazza subito. Boh. È velocissimo. Bello. Che è tutta sta? Ah, la faccia. Oh, che è tutta. La prima volta tutta che stemma, vedo stemma. Mentre funziona, capito? Non ho mai visto. Frattempo si vedono tutte le mie. Chat passato è bellissimo. Esatto, viva la privacy. Avevo visto Battaglia a Monte Cassino, pensavo che era la sì, storia sì, perché precedente. Avevo provato. Vabbè, dai, provato. Cominciamo, dai. Allora, ciao, sono entusiasti di condurre la vostra avventura al misterioso edificio abbandonato. Prima di iniziare facciamo una breve carona dei due personaggi e le loro caratteristiche. Ogni personaggio ha accesso all'equipaggiamento standard, uniforme da poliziotto, pistola, vabbè, l'abbiamo letto. La vostra avventura inizia quando riceve una misteriosa chiamata nella metà dell'audio di servizio che chiede di Ind. La vedo male. Andiamo bene, sei rotto. Andiamo bene, sta elaborando. Come elaborando, sì. Strano però, prima volta mi capita di vedere una cosa del genere. È perché hai chiesto tante piccole cose, no? E tu, quindi tu l'hai provata veramente gagliarda. L'hai provata, Simone, questa cosa, sì o no? Allora, questa qui nello specifico no, però uguale. No, aspetta. No, questa cosa nello specifico no, ma uguale, con lo stesso schema di descrizione. Oggi ho provato un'altra storia, un altro contesto. Okay. C'è Gabri che dice scrivi continua, non lo so. No, perché qua sta in teoria. Sta ancora cosa? Vedi, sta ancora stop generating. Però anche Pasquale sta dicendo sì, dite continua, probabile si sblocca. Ma prova, continua, dia continua. Dai. Così almeno non rimaniamo in questa triste impasse di un gioco che è morto prima di iniziare. Già, già. Io nel dubbio copio qua con le correzioni tutto, copio già tutto. Ecco qua. Già non si sa mai. Sì, mi scoccerei. Lo sta un tic stivolante che c'avevo, dai, lo metto. Sì, oggi ho fatto una prova con una storia fantascientifica che era figa, stava venendo pure bene, una cosa particolare, dai, devo dire che comunque teoricamente funziona, solo che... E niente, faccio una cosa drastica, un bel F5, che dite? Vai, prova. Dai, è partito così bene, mo mi dice che ti pinta. Perché la partita pure veloce, visto? Infatti, vabbè, perché di quelle cose che già gli avevamo scritte, capito? Vai, vedi se il ecco, no, per, ah, ok. Ne ha fatto proprio una girata da un'altra. Ah, ok. Mo invece. Vedi, quella ha cambiato proprio. Infatti, non ha fatto le statistiche come prima. Quindi vuol dire che non ci ha capito un cazzo. Va bene, inizia a leggere. Vai. È una fredda notte d'inverno quando i tre poliziotti, l'agente Simon T. Pitts, il cadetto Deborah Pix e il tenente Mario Brega, ricevono una misteriosa chiamata sulla radio dell'auto di servizio. Una voce sconosciuta chiede loro di recarsi urgentemente all'indirizzo 13 Blackwood Lane, una vasta casa abbandonata nota per le sue leggende oscure. Con un senso di anticipazione e una lieve apprensione, i poliziotti raggiungono l'indirizzo indicato. Le luci della città si affievoliscono mentre si inano all'edificio decrepito. Vabbè, non neanche più sa scrivere bene, cioè ci... I loro passi risuonano sinistramente nel silenzio della notte. La casa si erge imponente davanti a loro, le finestre rotte e il tetto parzialmente crollato. Appena varcano la soglia, i tre agenti si ritrovano in un vestibolo polveroso, illuminato solo dalla debole luce delle loro torce. L'aria è densa di un'atmosfera misteriose, pareti e le screpolate. Su questi orrori di ChatGPT, misteriose pareti e le screpolate sbrecciate sembrano nascondere segreti secolari. Iniziate a investigare. Vabbè, sta facendo tutta la campagna su. Iniziate a investigare, cercando di far luce sulla richiesta misteriosa che vi ha portato in questo luogo. Le vostre menti razionali sono pronte ad affrontare qualsiasi sfida che si presenterà. Menti razionali. mentre i vostri corpi sono equipaggiati con tutto il necessario per difenderli. Siete pronti a utilizzare la vostra intelligenza, le vostre abilità e le vostre risorse per risolvere il mistero che avvolge tutta questa casa abbandonata. E anche ste mano, allora. Infatti, guarda, forza. Allora, la radio, aspetta, okay, si fa sentire nuovamente, indicando una delle stanze al primo piano come punto di partenza dell'indagine. Avvicinandovi a una porta semiaperta, sentite un sussurro provenire dall'interno. Entrando, scoprire una scena macabra. Un cadavere brutalmente assassinato giace sul pavimento. Ma si sta facendo tutta la campagna, sta facendo la nostra missione di indagine omicida. Bravi, avete risolto il caso. Nasconde indizi e potenziali minacce. Ogni passo che compierà sarà importante, avrà conseguenze sulle vostre vite e sulla riuscita. A turno mi direte come desiderate procedere, io vi fornirò le informazioni necessarie. Oltre a fare compiri di dado di base, tre azioni alle vostre caratteristiche. Ogni tiro di dado determinerà il successo o il fallimento delle vostre azioni, potrà influenzare lo sviluppo della trama e il destino dei vostri personaggi. Ricordatevi che il mondo che vi circonda è pericoloso e imprevedibile. Dovete essere prudenti nelle vostre scelte, cercare di mantenere la calma anche nei momenti di maggiore tensione. Il vostro intuito e la vostra collaborazione saranno fondamentali per risolvere il mistero che avvolge questa casa e portare a termine la vostra missione. Ora vi lascio il tempo di discutere tra di voi e decidere come desiderate procedere, okay, all'interno delle case abbandonate. Fate attenzione ai dettagli e agire con cautela. Allora, quando sarete pronti, fatevi sapere quale stanza desiderate esplorare e che azione volete intraprendere. Il vostro destino vi attende nelle ombre e misteriosa dimora. Questa volta sono io che mi stavo già spiegando. Ok, allora, in teoria noi possiamo scrivere sulla riga i comandi di tutti e tre, cioè nel senso, Piz fa questo, Deb fa quell'altro e quell'altro è. Quindi in teoria noi, cioè lui già ci ha detto che stiamo dentro la stanza, non manco stiamo qua. Infatti. Ok. Porco Giuda, mo che stava a finire il turno, ci siamo durato sto morto schietto, guarda che ci tocca fare. Di solito un giorno dalla pensione poi succedono queste cose, ricordo, tu che sei. E se muori quando è così, quindi non va bene. Piz! Allora. Pix, sì, chiama la centrale un attimo, dai, che io c'ho mezza scarica a carco Giuda. No, allora, oppure possiamo fare qualcosa alla pischella là, vai. No, perché io per prima, certo, io sono più giovane, devo vivere. Noi, oh, te ne fai le ossa qua, che te ne bagnate. Vabbè, allora io mi metto a osservare il cadavere. Ok, allora, Deborah osserva il cadavere. E... come si chiama? In cerca di qualche indizio. Deborah, no, voglio mettere. Ha detto Pix. Così finiamo domani, Francesco. Usa i tasti. Il cadavere. Mm-hmm. Okay. Mettiamo tutti e tre. Sì. Simo. Tu che fai, Simo? Io. Illumino la stanza, dai, con la torcia. Illumino la stanza. E certi do, guarda un cadavere, non è giusto. Beh, scusa, questo è il tuo primo giorno sei cadetto. Grazie, sei che bello, proprio col cadavere, capito? E tu che fai, ora c'è la suspense. Ma no, ma l'unica che lavora sono io. Ma mi sento sfruttata, sono quella che guadagna di meno, sono una stagista schiava, ma no. Come minimo. Il cadetto Deborah Pix si avvicina con cautela al cadavere, cercando di analizzare la scena del crimine. Osserva attentamente il corpo, cercando eventuali indizi che possono fornire informazioni sul delitto. Effettua un tiro di dado per la sua abilità di investigazione, tenendo conto della sua intelligenza e saggezza. Con il suo livello di intelligenza e saggezza, il cadetto Pix riesce a rilevare alcuni dettagli importanti sulla vittima. Sembra che sia stato ucciso da un colpo di arma da fuoco, ma non si possono ruola misto fatto che hai trovato cose di arma da fuoco. Sì, guarda, io ho visto un buco in fronte e quindi penso che qualcuno gli ha sparato. Perché la mia intelligenza e saggezza è questa, quindi è io questo. Devo dire, cara Deborah, che sono stupefatto dalla tua capacità di osservazione. Cosa ne pensi? Ma perché tu hai illuminato bene la zona? Esatto, è tutto merito della mia torcia. Infatti, nel frattempo, illumina la stanza della torcia elettrica, cerca intorno alla stanza e ricerca di indizi o trecce che possono aiutare a risolvere il mistero. Tu effetti un tiro di dado per la tua abilità di ricerca, considerando la tua intelligenza e destrezza. È andato male. Cerchi diligentemente, ma non riesci a trovare alcun indizio significativo nella stanza. Illumina i dettagli, sembra che il luogo sia stato accuratamente ripulito. Dai, dici qualcosa, ruolami sto fatto, Simone, dai. Accidenti, questo posto è stato fottutamente ripulito. Ma che è un film americano. E beh, hai visto, stiamo a cercare l'altra istanza. Il tenente Marrone sembra visto dell'attenzione del caso e si ritrova a giocare nel suo cellulare. Mentre il tempo passa, potrebbe essere utile che il tenente si unisca agli sforzi di altri poliziotti e risolva il mistero di indagini in corso. Con due sto snake di merda, vabbè, oh. E tocca lavorare. Vabbè, ma quindi mo ci chiamano piedi piatti, dato che siamo in un film, insomma. No, esatto, ma siamo dei piedi piatti, perché siamo poi alla fine piatti. Siamo a Hills Lane. Vabbè, oh, che ha detto la pischella là che ha trovato là che è morto, ha trovato un buco in fronte, un buco in fronte, quindi in teoria gli hanno sparato. Che mi pare una picconata, boh. Scusi tenente, lei che insomma è anche un po' più esperta, c'ha più saggezza, analizzi bene il corpo anche lei, magari ci sono dei dettagli tra i vestiti, le cose, insomma. Ma queste cose ho fatto una vita, ma che mi tocca, babbo, da. Vabbè, a parte che Mario Brega non parla così, lo so che non parlo così, perciò ho detto lo farò rivoltare nella tomba. Ah, ok. Vai. Allora, il tenente Brega osserva anche lui il cadavere. Voi mentre che fate? Io analizzo gli angoli più nascosti della stanza con molta attenzione e poi Debra non lo so. Io analizzo il tenente che osserva il cadavere. Brava, finalmente, così impara qualcosa, giusto? Ha ragione. Così la mia saggezza un minimo sale, dai. Non finirà mai sto gioco, così, lo dico. Com'è Deborah, sì, Deborah. No, Deborah. Sì. No, Deborah. Sì, però noi al gioco abbiamo detto Deborah. No. Ah, ok. Quindi no, pensavo che... Non gli cambiamo le carte in tavola, se non capisce. Sì. No. Deborah osserva... Il tenente. Il tenente Brega dice di unirsi agli sforzi di altri poliziotti e si avvicina al cadavere e osservarlo attentamente. Effettua un tiro di dado per la sua abilità di investigazione, dando conto della sua intelligenza e saggezza. 8. Riesco a notare alcuni dettagli rilevanti sulla vittima. Fammi guardare bene, oh! Ma questo è stato ferito da un'arma da fuoco. Ho detto. L'avevo detto. Allora è brava sta cadetta. No, sai, è come cavolo chiamarla? Come atti il flagello di Dio. Che quando facciamo qualcosa. Ma riesce anche a notare delle piccole tracce di sangue che sembrano venire da una direzione diversa. Queste tracce potrebbero essere un indizio importante per determinare la dinamica del crimine. Ma wow, è sporco di sangue pure. Ma vedete che. Ma. Allora, Simone Pizzi invece dedica ulteriori sforzi alle osservazioni della stanza. La ricerca di indizi che potrebbero essere sfuggiti inizialmente. Effettua un tiro di dado e la sua ricerca. 11. Molto attenta all'indizio con precisione in ogni angolo della stanza. Questa volta riesce a trovare un minuscolo frammento di vetro vicino alla finestra rotta. Potrebbe essere un indizio importante suggerendo che qualcuno sia entrato o uscito attraverso quella finestra. Tenente, trovato il frammento di vetro che dimostra che la finestra è stata rotta. Bravo, guarda, te meriti una promozione per questo. Oh, era ora, tenente. Certo, a me no, però. Posso prendere il posto suo? Certo. Nel frattempo, il cadetto Deborah Pix decide di osservare attentamente il tenente Brega. Effettua un tiro di dado per la sua abilità di osservazione, tenendo conto della sua intelligenza e saggezza. 7. Riesce a notare che il tenente Brega è sempre distratto e poco concentrato sull'indagine. Male, molto male, tenente. Questo potrebbe influire negativamente sul progresso dell'indagine. Tuttavia, il cadetto Pix ha l'opportunità di condividere questa osservazione con i suoi compagni. Ma devo fare la spia. Sì, come deciderà di procedere? Che di, allora, io dico, sergente, no, che eri decimo, non mi ricordo. Tenente, il nostro capo qua non è concentrato, è troppo preso dal cellulare, non sta indagando bene. Esatto, quindi allora Deborah si lamenta nei confronti del suo superiore. Esatto, licenziato. Mentre io mi affaccio. Pure Pulci qua, parlo. Pure Pulci fa una voce grossa qua che mi tocca. Fa studiami quanto ne ha. Mi licenziano subito. Quante ne mando giù? Io comunque cerco di affacciarmi con molta cautela nell'altro ambiente, cercando di percepire se ci sono dei pericoli. Pericoli. Attenzione. Wow. Ok, quindi il cadetto Pix, che fai? Che ha detto? Sì, vabbè, l'abbiamo rollato. Dopo essersi lamentata apertamente del suo superiore. Dell'ine di muovere, sei stato licenziato del tenente Che fai? Segui. Boh. Me la porto con me a indagare. Sì, lascio il tenente e vado con Piz perché mi sembra più saggio. Attento alle... più saggio. Mettiamo in ordine la gente. Piz si reca circospetto nel corridoio alla ricerca di altri indizi, va bene? Ma soprattutto mettendosi in ascolto per percepire se ci sono degli eventuali pericoli, perché quella è la cosa, capito? Cioè, nel senso, cercando di capire se ci sono eventuali pericoli nascosti. Okay, brega. Segue l'agente Piz che le sembra più serio. Pure brega, tutti dietro vengono. No, sono io che te seguo. Ah, sì, ok. Ah, perché non l'ha scritto ancora. Intanto io provo a seguire la chat, ma non ce la faccio, sta dietro tutto. Comunica con la radio. Calla. Sento puzza di moddi. Di licenziamento. Cadavere. Ah, ok, pensavo. Cadavere. E aggiunge una... Ah, controllate le tasche, ci dicono, c'è ragione. Gabriel, detective, controlla le tasche, ha detto Gab. Sì. Demerito per il cadetto. No, ma cioè tu stai lavorando male, che vuoi? Sua insubordinazione. Agente Piz, mi difenda lei, la prego. Lo so, ma è il superiore, che gli posso fare questo? Poi dopo. Vabbè, ma tu sei anche un mio superiore, quindi tu mi difendi. Hai ragione. Leggete, ragazzi, leggete. Vai, chi legge? Scorre troppo, come fai a leggere? Sì, diciamo che manco Superman. Non zucchero. Madonna, come piotta, ma che è? Aspetta, devi salire. Sì, solo sto leggendo. Ah, okay. La gente. Allora, Simone, tu avventuri con cautela nel corridoio. Attento, eventuali. Fai la persona che va con cautela nel corridoio. Con eventuali. Attento, eventuali. Effetto, un tiro di dado di esplorazione, tenendo conto della sua saggezza. Silenzio. Il risultato è 9. L'agente Piz avanza con attenzione nel corridoio buio, scrutando ogni angolo e ascoltando attentamente. Non nota alcuna minaccia imminente, ma la tensione nell'area si fa sentire. Continua a muoversi con prudenza alla ricerca di ulteriori indizi. Nel frattempo, il cadetto Deborah Pix, dopo essersi lamentato dell'efficienza del tenente Brega, decide di seguire l'agente Piz, tenendo più concentrato e serio nell'Italia. Si avvicina a lui e si prepara a proseguire nel corridoio. La loro collaborazione potrebbe portare risultati. Vedi che lo dice pure chat GPT. Esatto. Fa bene affidarsi del suo istinto e della guida dell'agente Piz. Bravo. Nel frattempo il tenente Brega, comunicando la grada, informa alla centrale del ritrovamento del cadavere, nota una nota di demerito perché il tenente Piz è causa della sensibilità. Fortunatamente non è un'efficace comunicazione della centrale, ma dovrebbe anche essere utile cercare di gestire le dinamiche all'interno del gruppo in modo più costruttivo. Ecco, infatti. Sei qua per un per cazzo, questo è tutto. Attenti a ogni dettaglio e pronti a affrontare ciò che detente. Come si dirà? Vabbè, io mi faccio pronto centrale. Qua abbiamo trovato un mortaccio. Raga, hanno sparato un pronte. Comunque sta pischella qua dove ha mannato, mi convince. Secondo me non arriva a fine del semestre. Grazie. Anzi, semestre, pensavo peggio. Ma già, ci dice dice no, ma ecco, cose meglio. Secondo me si crede troppo, cioè bisogna farla abbassare un po' questa. Vabbè. Invece io al cadetto gli dico lascialo stare, vecchiaccio, lascialo perdere. Bravo. Basta, Piz, il mio superiore. E come tu illumina tutto qua. No, illumino tutto, illumino la strada. E tenente, lei guardi nelle tasche del morto, per cortesia. E ci metti pure te, mo. No, io le sto dando dei suggerimenti in quanto, scusi, lei è più esperto, mette le mani. Senti, ma non c'erano altri tenenti disponibili stasera? Brega, alza il cadavere. Ma che si muove? No, ma vedi che incompetente. Basta, Simone, andiamo. sta inquinando. Io mi dissocio. Almeno c'hai i guanti. Almeno c'hai i guanti. Sì, quelli da cucina. Lo scudo alla ricerca di. No, io non c'entro niente, me ne vado. Va, cambio mestiere. E poi, tra l'altro, lui, essendo forte, lo alza con la mano il cadavere. Boh, vola. Esatto. Quindi? Poi. Vabbè, alza il cadavere per i piedi e lo scuote. Ma che tenente è, scusa? Ti prego. Oh, raga, se vogliamo fare i seri, facci il 6. Cioè, fatemi cazzeggiare un po', dai. Yeah. Ma io il mio tenente è pizza. Tu sei l'elemento comico. Io faccio un gesto a Deb di illuminare bene la zona e passo dopo passo continuo verso il corridoio, anzi no, avanzo nel corridoio. Ok, quindi io illumino la strada per il mitico tenente Pizza. Mitico. Mitico perché basta, ormai io ho fiducia in te e non in brega. Insomma. Beh, ci vuole poco, Vabbè, ma quindi l'hai analizzato sto cadavere con... Aspetta, no, lungo il corridoio della gente Sì, io sto illuminando la strada. Pizza che segue lungo il corridoio. Comunque Pix e Piz, cioè senti che agenti però. Senti che roba, macello, penso che poi al superiore gli viene l'ictus. No! Che è successo? Che è successo? Ah, oddio. La vedo brutta. È calma. Cazzo. Perché questo mi sa che è un orario di forte attività in America, quindi... Sì, americani di merda, sempre colpa loro. Dice comunque, perché... dice che Shaggy... Attenzione, eccolo. No, di Demero, il cadetto di proprio... questa cosa proprio devi sottolineare 20 volte. I piedi, e scooter, e cermente. Oh, alzate! Anche il sangue ha fatto sci. Mi dice pegli le tasche, faccio prima così. Oh, direi per la sua abilità di ricerca. 4 hai fatto, ma che schifo. La sua assistente breve non riesce a trovare. Ma questo è un ciancacchio. Hanno ripulito tutto. Si sono prese pure i centri. Pure beh, però pure te che guardi così, ma non si osserva così. Ma vabbè, io non ma Deborah, so. Noi se ne siamo andati. Intanto stiamo per corridoio. Esatto. Ma io ho fatto bene andarmene, guarda. Inizio già di allora altrove nella casa. Nel frattempo, il cadetto Deborah il percorso lungo il corridoio per la gente si monti pizza, fornendo una guida sicura. Bene, una guida sicura per la gente pizza. Così si fa. Gioco di squadra. Illumina la strada e mettendo la gente di procedere con maggior sicurezza. Vedi. Continua ad avanzare nel corridoio attentamente. Cosa noto? Noterò qualcosa prima o poi. No? Fornire dal cadavetto Pix prosegue con cautela lungo il corridoio, continuando la sua esplorazione. L'atmosfera nella casa abbandonata diventa sempre più oppressiva, ma la determinazione a scoprire la verità li spinge avanti. Quanto siamo cosa coraggiosi! Successivamente. Innanzitutto dice: oh, questo non c'ha niente. Oh, ma dove state? Che bello! Agente Piz, cogliemosela. Se ci fosse stato pure puta caso il criminale dentro la casa, c'è bello che è andato dopo tutta sta. Sì, ci aveva sparato da tempo, insomma. Esatto. Io mi affaccio con cautela alla prossima stanza, senza entrare e osservando, cercando segnali di pericolo. Ok. E dico a Deb di restare in copertura. Ok, quindi io ti copro le spalle. Esatto. Agente Piz. Tu mettiti dall'altro lato della porta e non bucchi manco tu, capito? Cioè, devi no. Se bucca dentro. No, se c'era allora, l'agente brega mi faceva entrare a me per prima, sicuro. Ripeti. Allora, io mi accosto. Allora, tu fai così proprio. Simon T. Piz si accosta con attenzione, circospezione alla prossima porta, cercando di osservare all'interno senza entrare per vedere eventuali segnali di pericolo. Cercando di osservare all'interno senza entrare. Ma c'hai tipo la pistola alzata molto America? Questa sai così, sì? Per ora no, per ora no. No, ok. Per ora non ci ho pensato. Te fidi? Sì, mi fido. Va bene. Perché il pericolo è... invece Io copro le spalle alla gente pizza. Esatto. Io però la pistola la tiro fuori. Vabbè. In fondo chi te lo impedisce? Basta che non mi spari. La mia poca forza me lo impedisce. Forse. Ma tu c'hai una pistola speciale. Vabbè, quella lì da donna, la pistolina da borsetta, no? Certo, è molto utile a poliziotto quella. È brutto, se dovrebbe fare la poliziotta con l'arco e freccia, un po' elfica. Certo, dentro una casa, insomma, proprio comodo, te sta davanti tu così con l'arco. Che... Vabbè, ci danno pure l'archi quelli da borsetta, insomma. L'archetto da borsetta. Mo sbaglio e sparo a brega. Beh, ma magari quello non è sbaglio, secondo me. Poi alla fine, secondo me, dico, la svolta narrativa è che i criminali siamo noi. Poi. Mamma mia, boom proprio. Che cliffhanger incredibile per la prossima puntata. Maro. Meglio di un telefilm, comunque. Tanto io sento la voce di Deborah dal computer di mia moglie che arriva dopo non si sa quanto. La gente pizzi si avvicina con attenzione alla prossima porta lungo il corridoio, cercando di osservare all'interno senza entrare direttamente, effettuando un tiro di dado per la sua abilità di osservazione, considerando la sua intelligenza e saggezza. 8. La gente pizzi riesce a scrutare attraverso una fessura nella porta, cercando di individuare eventuali pericoli e indizi all'interno della stanza. Non vede nulla di sospetto, nota che la stanza sembra essere... in disordine, come se qualcuno avesse cercato qualcosa dal suo interno. Uno sfrugagliato. Qualche documento. Brabix posiziona dietro l'agente Pitts con la pistola saldamente in mano. Il suo compito è quello di coprire le spalle dell'agente e garantire la loro sicurezza. Si mantiene in allerta, pronta a intervenire in caso di necessità. Tenendo con la brega, segue il gruppo posizionandosi vicino alla porta per controllare il resto del corridoio. Si assicura che non ci siano minacce provenienti da quella direzione e resta in allerta per eventuali segnali di pericolo. La stanza davanti a voi, il corridoio di voi sotto controllo, avete preso quelle azioni che dovete per affrontare la situazione. Così direi: vedi che siamo stati bravi. Io sfondo la porta. Che dite? Così, ah, sì, dai, e beh, sbrega, deve utilizzare la sua forza. Vai, specifica. Vai, la forza, vai. Sbrega utilizzando la forza. Che dite? Entriamo. Sbraga tutto. No. Ho controllato, non c'è niente. Deb sta già con la pistola appizzata. Io sono pronta, sono pronta. Tu spara a qualsiasi cosa che si muove, naturalmente. Comunque, la destrezza non mi manca, quindi. Esatto, quella ci cogli, dai. Cioè, l'unica cosa che ho è quella, quindi. Allora, fino adesso devo dire che, mentre che Francesco scrive, facciamo una piccola, la prima osservazione. Fino adesso i valori personali non so quanto abbiano influito. Allora, li tiene memorizzati. Questa è una cosa che abbiamo dibattuto molto oggi anche nelle nostre chat, perché Marco Gualdi, che aveva fatto delle prove, a lui alcune cose, alcuni elementi dei personaggi non li teneva memorizzati. A un certo punto decideva i numeri a cazzo proprio, tipo, lui c'ha forza 15, ma veramente ce l'aveva 12, ah scusa mi sono sbagliato, a forza 15, e andava per cazzi suoi. Invece nel mio esperimento devo dire che lui sempre mi metteva tra parentesi gli elementi di forza, destrezza e via dicendo, e l'ha sempre tenuto. Però non so quanto effettivamente stiano influendo all'interno della storia. Ma vediamo, se dice prova a sfondere la porta e non ci riesce perché è troppo debole. È impossibile, perché tu 12 su 12 in teoria. Appunto. Infatti, Piz, tu che fai? Ha detto io sfondo la porta, io conto fino a 3. Facevo conto fino a 3, io sfondo la porta e bucca dentro. Aspetta, allora entro io che ho già la pistola, entro io per primo. Calla. Vuole sfondarla. Eccola, sì, ok. Quindi Debola entra subito con movimenti rapidi, mirando così, a qualsiasi cosa che mi si giro muove. Di corsa a vedere se c'è qualcuno da qualche lato, dietro le tende, dietro le cose, capito? Bravo, così deve fare così. Lei... e io con calma entro, stavolta entro io con calma. Dai. E poi faccio libero. Esatto, brava, io, così, non lo so, brava, magari brava. C'è qualcuno. Te sei medesimato, bravo. Troppi così. Film d'azione. Stasera me la sento Jason Statham. Pizzo segue gli altri. Così. Esatto, non ho capito l'ultima frase di Vincent, che chat GPG è già nato Gesù Cristo? Che no, è andato giù come Gesù Cristo. Ah, è andato giù come Gesù Cristo, vabbè, non capivo come l'ha scritto. Quindi. Vabbè, vediamo intanto cosa succede. Nel frattempo... Muoio. Il tenente Mario Brega sbraga. Sarà sbragato, bra? Il tenente Mario Brega, dove aver verificato che il corridoio è sotto controllo, conta fino a 3, con una spinta decisa sfonda la porta della stanza. Allora, raga, conto fino a 3. 3! Boom! Boom! Grazie alla sua forza e determinazione, il tenente Brega riesce a sfondare la porta con successo, aprendo un varco verso l'interno della stanza. Il cadetto Deborah Pix entra rapidamente nella stanza, perché ha più scalto, come un'anguilla. Movimenti agili e la pistola puntata in avanti, pronto ad affrontare eventuali pericoli. Effetto un tiro di dado per la sua abilità di prontezza, considerando la sua destrezza. 7. Ma se c'è un Pix entra nella stanza con prontezza, coprendo ogni angolo con lo sguardo. Aspetta, 7 la destrezza o 7 il dado? Scusa, 7 il dado. Ah, ok. Dice il dado. Spero abbia fatto però anche 11 di destrezza. Non nota immediate minacce, ma la tensione dell'aria si fa sempre più palpabile. Lanciate Simon Pitts, segui altri due all'interno della stanza, mantenendo la prudenza. Si mantiene una posizione che gli permette di osservare l'ambiente circostante e fornire supporto in caso di necessità. Una volta entrati nella stanza, potete finalmente esplorare con più attenzione. Cosa dovete fare allora? Io dico, Pischelle, togli da mezzo, fa fa qua i grandi, va. Ma perché? Te, cioè, io mi stavo pure ricoprendo con l'arma, ma io non lo so. Esatto. Ti punta la pistola a qualsiasi cosa che si muove. Io do una va bene. Ti metti in guardia, lei ti dice mettiti in guardia praticamente. Vabbè, faccio il palo praticamente. Esatto. Vabbè. Vabbè, per ora sei, hai tirata fuori la pistola, voglio dire. Faccio il palo. Pizzi di oggetti utili. Ordina a X di restare in guardia. Fare il palo. Fare in guardia con la pistola. Pizzi, che fai? Dietro le tende, dietro le tende. Io illumino e osservo attentamente la stanza. Quanto ti piace illuminare? Se a me piace illuminare. E se non illumino siete in cazzo, scusate. Vabbè, anche questo è vero. Scusate. Tente Mario Brego controlla attentamente la stanza e spostando lo sguardo su ogni angolo e ogni oggetto presente effettua un tiro di dado per la sua abilità di ricerca, considerando la sua intelligenza e saggezza. Nonostante l'attenzione del tenente Brega non riesce a individuare immediatamente indizi significativi oggetti utili alla nazione. Non c'è un cazzo. Io vedo niente. Niente. Tuttavia potrebbe esserci ancora qualcosa di rilevante che richiede un'indagine più approfondita. Nel frattempo il tenente Brega ordina al cadetto Deborah Pix di rimanere in guardia, tenendo la pistola puntata e pronta a reagire a eventuali minacce. La sicurezza del gruppo rimane una priorità. L'agente Simon Tipizzi illumina attentamente la stanza con la sua torcia tattica, cercando di individuare dettagli che potrebbe sfuggire da una semplice osservazione. Effettua un tiro di dado per la sua abilità di osservazione, considerando la sua intelligenza e saggezza. 11. Presa l'illuminazione accurata e la all'attenta osservazione, l'agente Pitts nota qualcosa di interessante. Che stai notando? Sotto la polverosa scrivania individua una busta di colore sbiadito. La prende con cautela e la esamina attentamente. Oh, ti sei messi i guanti. A me lo dice. Ha detto quello che prima ha preso il cadavere e l'ha spezzato per la macchinetta. All'interno della busta contiene una serie di documenti di fotografie che sembrano essere collegati a un caso di corruzione all'interno della forza di polizia. Ah, è breve. Credente misterioso che l'ha portato in quella casa abbandonata potrebbe essere legato a una cospirazione di più ampio respiro. Cosa dovete fare? Dice questa scoperta. Famo leggere chi è quello corrotto. Vedere allora, le foto. Allora, facciamo una cosa. Allora, tu me la consegni a me. Fai tempo a me. No, aspetta. Io ce l'ho io in mano. Okay. Quindi io, che so un po' più paraculo, consegno con, insomma, raccomandandomi di tenerne molta cura a Deborah questi documenti. Va bene. Ok. Poi quando torneremo li analizzeremo, cara Deborah, vedremo chi è il marcio qui nel nostro distretto di polizia, altro che questo Brega. Non dobbiamo fidarci, non c'è da fidarci. Io mi fido del Brega. Esatto. Va bene, io prendo i documenti, agente. Bene, allora, bene. Mi tengo al sicuro, non si preoccupi. Tanto tu c'hai la pistola. Io ho la pistola, i documenti. Poi che fate? Niente, che altro dobbiamo fare? Abbiamo trovato, dobbiamo proseguire verso un'altra stanza. Io suggerisco al gruppo di proseguire verso un'altra stanza dopo aver consegnato. Brega, sente puzza di marcio. C'è qualcosa che... Secondo me ci ammazza nell'altra stanza, te lo dico. Dici che ci spara poi. Questa cosa non mi convince. Quei documenti poi vediamo, però. Andiamo un po' a vedere che c'è nel resto di sta casa. Di sta baracca. Ah no, vedi, li osservo da vicino. Ah, io volevo vederli. E tu puoi sempre farlo al turno tuo. Adesso dici, mentre che noi facciamo le nostre cose, te spizzi i documenti. Esatto. Le prove raccolte. Nel frattempo, il tenente Mario Brega, facciamo un'atmosfera sospetta, sente puzza di marcio nell'aria. Così. Ti ha scorreggiato, raga. Chiama il frafro. Com'era là il coso frafrog? Il farfrog, sì, è vero. Fungo grog. No, comunque, cioè, non è il cadavere dell'A che hai tra l'altro spostato liberamente. Allora, se il gruppo ordine procede con cautela. Oh, namo che ti chiedi, oh. istantaneo. No, io parlo a cazzo di cane. va bene, l'abbiamo capito. Va bene. Ulteriori indizi e risposta al mistero che li circonda. Il gruppo si sposta attentamente attraverso la casa abbandonata, seguendo le istruzioni del tenente Brega. Ogni passo è seguito con attenzione, mentre rimangono in allerta per qualsiasi segnale di pericolo o nuova scoperta. Arrivati alla porta della prossima stanza, si fermano per un attimo, raccogliendo le forze e concentrando l'attenzione. Così si parla adesso. Allora, il tenente Brega cerca di farsi una mentale dell'edificio così da pianificarne l'esplorazione. Così improvvisamente sto esplorando professionalità. Capito? Prima i cadaveri così. Perché sono saggio, tutto sommato è saggio. Allora io rimango qualche passo indietro perché sono troppo curiosa e mi metto a osservare le foto. Osservare i documenti. Le foto soprattutto. Quindi mo muoio perché resto indietro. Sento che è scritto male resta. Magari poi capisce chat GPT. Perché tu dici che hai capito fino a mo. Ma forse sì, che è qualcosa. Qualcosa ha capito. No, ammazzano, sicuro. Ma dalla paura. Dai. Pizzo, che fai, Pizzo? Che sono rimasta indietro. Io seguo passo passo. Non l'ho messo. Pizza, dai, che fai? Non l'ho messo. No, io seguo passo passo il tenente, avanzo lasciando la possibilità a Deborah di spizzarsi i documenti. Bravo Pizza. Così almeno il tenente è distratto dal fatto che io vado dietro, gli do. Sì, che ne so, chiede allora la moglie e i bambini, no? Come fanno nei film americani? No, ma allora tua moglie e i figli. Tenente, ma quanto è saggio lei che sta facendo la mappa mentale del palazzo? E che sta a fare le chie? Eh no, è per distrarlo, lui si sente gratificato. Ma no, quindi... chiedi moglie e figli, ma allora c'è stato il torneo di calcetto, hanno vinto, che ne so. Ma che mi frega la moglie dei figli, cosa? Manco ce l'avrà la moglie questa. Manco ce l'avrà moglie. Ma che ti sei rincoglionito? Ma se mi ha fatto pure testimone di nozze. Ah sì? Pensa te. Ecco. Era ubriaco. Può essere. Poi c'è l'importante di avere una visione generale dell'edificio, inizia a farsi una mappa, ma qua dobbiamo capire come cacchio è fatta, quanti piani ci sono qua, come sono fatte, se sono simmetriche, se no, se non capivo dove cacchio. Se c'è abuso edilizio anche. Probabile. Vabbè, abuso, cioè. Una nota mentale dei vari ambienti, corridoi e stanze. Si concentra sulla disposizione degli spazi per pianificare le esplorazioni in modo efficace. Cammina attentamente un corridoio cercando di ricordare ogni dettaglio significativo. Sì, io pensavo, voglio che mi faccia una mappa, poi non me la farà mai. Nel frattempo il cadetto Deborah Pix rimane indietro dedicandosi all'esame dei documenti e delle fotografie che trova nella busta. Si sofferma sulle foto osservando attentamente i dettagli, cercando di dare eventuali collegamenti e inizi cruciali. Vabbè, la gente si monti pizza, segue il tenente breve, prestando attenzione alle sue parole, cercando di adulare, cerca di far emergere la sua fiducia e le capacità del tenente, la lode delle sue decisioni e la sua leadership. L'obiettivo di Pix è quello di sogliere l'attenzione del tenente alla sua esplorazione e dare a Pix il tenente della Birtani. Ma vedi che però capisce bene, sì, sì. Mazza! Mentre il tenente Brega continua a fare mappa e aumentare l'edificio, e Pix direttamente fa la gente pizza cerca di alloggiarli ancora. Vabbè, come proseguite la vostra esplorazione? Sì, allora, ma è Deborah che ne hai vinto da questa sua osservazione? Io ho visto che Brega è in una delle foto. cosa trova nel ce lo deve dire lui, scusa. No, io l'ho visto. Tu l'hai visto? Tu. Io lo so. Non lo dici neanche a chat GPT che se ne è venuto. Io so. Ma la spia questo, eh. Mannaggia. Quante stanze e piani, ma lo devi vendere, una certa. Cioè. In realtà lui in pensione vorrebbe fare l'agente immobiliare. Ristrutture e ci guadagna, capito? Pizza, ah, sì. Tu che fai invece? Pizza. I due fratelli. Io continuo ad avanzare alla prossima stanza con spirito di osservazione, cercando oggetti utili e illuminando con la mia torcia. Dove vai? Sei prima l'uomo torcia. Pizza, uomo torcia. Però. Torcia, la torcia umana. Vediamo se capisci. Vediamo che trova. Allora, la chat sono... dalla chat sono morti. Sono morti, sì, eppure c'è sta gente che ci sta guardando. È che sono troppo presi dalla storia. Eh sì, sì, c'è l'effetto wow. Sono proprio quei popcorn, capito? Comunque è una cosa interessante. Ah, ha capito tutto il piano nostro. Il cadetto Bix, analizzando attentamente le foto, individua diversi elementi rilevanti. Le immagini traggono persone sospette in situazioni compromettenti. Genetico di così, alcune di esse indossano uniformi di polizia. In una delle foto Pix si conosce anche uno degli agenti polizia locali, cui coinvolgimento potrebbe essere cruciale per comprendere la cospirazione. Nel frattempo il tenente Mario Brega, dopo un'attenta esplorazione dell'edificio, ha individuato che ci sono 3 piani, un totale di 9 stanze distribuite lungo i vari livelli. Tuttavia le mappe mentali non sono ancora complete, alcune zone potrebbero richiedere una verifica più accurata. L'agente Pitts, nel frattempo, si attende con ansia il responsabile del tenente Brega sulle caratteristiche dell'edificio. Spera di ottenere informazioni dettagliate e poi di pianificare in modo difficile l'esplorazione successiva e proseguire le indagini. Simo, vieni qua. Qua stiamo 3 piani, uno interrato. Sì. E ci saranno circa 9 stanze, però scusa tenente, ma ci stanno i sotterranei? Perché io andrei ai sotterranei. Calla, moriamo. Io vorrei andare ai sotterranei e possiamo fare una votazione. Suggerisco a Debora questo suggerimento, dato che vai nei sotterranei. No, abbiamo tanta libertà, secondo me tu dovresti chiedere a ChatGPT se nella tua osservazione dei documenti dove hai scoperto i vari se fa il nome di Mario Brega. Tu glielo devi chiedere. Io l'ho visto lì in mezzo ai fori. Allora, c'è una sacca di gente, l'ho visto. Allora tu dici Pixel Deb. No, Deb Pix. Conosce il nome dell'agente di polizia corrotto sospetto nel chat GPT si sta con lei e Simone Pix cerca altro che se nel nei documenti citato Brega, tenente Brega. Questa era la puzza di marcio di prima. Fida. No, uno che tratta così i cadaveri. Io cerco i sotterranei e li illumini. Il tenente Brega segnala che probabilmente c'è un piano interrato. Okay. E Pitts va a morire male praticamente. No, e Pitts con circospezione lo cerca. Cerca il piano interrato. Cercano. Che poi non c'è. Oggettivamente tu non sai neanche dove vuole andare la storia di ChatGPT, capito? Cioè, nel senso, noi adesso stiamo deducendo che dobbiamo continuare a esplorare, ma magari per lui. Ma secondo me. Cioè. Improvviso da lui, sì. Cadetto Debra Pix osserva attentamente la foto e ricerca informazioni sul nome dell'agente di polizia sospetto. Dopo un'analisi accurata, Pix riesce a individuare il nome dell'agente nella scheda delle foto. Si tratta dell'agente Robert Turner. E quindi non è Brega. Questa informazione potrebbe essere fondamentale per le indagini. Nel frattempo, Brega è un soprannome. Come se c'è qualche menzione del tenente Mario Brega. Dopo una ricerca attenta, Pix riesce a trovare un rapporto segreto nel quale si fa riferimento al tenente Brega. Il rapporto suggerisce che potrebbe essere il coinvolgimento del tenente in un'operazione corrotta all'interno delle forze di polizia. Questa scoperta aumenta i sospetti di cui mette in dubbio la sua fiducia. Il tenente Brega segnala l'ipotesi di un piano interrato e con l'aiuto dell'agente Pitts inizia la ricerca. L'agente Pitts, non con circospezione, esplora l'edificio alla ricerca di un possibile ingresso al piano interrato. Pitts resta presto attenzione a possibili trappole e segnali di pericolo lungo il percorso. Dopo una ricerca accurata, Pitts individua una porta nascosta dietro una libreria nella sala principale dell'edificio. Tutta sta roba è fatta. Trovami sta porta, Pitts. C'è una porta. E com'è sta porta? È greca? È greca. E com'è questa porta? Ma no, io ho già mangiato. E magna. Vabbè, però dovevi fare che spostavi la libreria, spostavi il libro, no? Sposti un libro Cosa succede se sposto questo libro? Aspetta. Un passaggio. Il tenente Brega fa i complimenti a Pitts. Mi sono trovato un bel testimone, lo sapevo, e gli dà una pacca sulla spalla. Sì, tipo Canavacciuolo praticamente. E gli dà una poderosa, se fossi in te, Deb, Io aspetta, senta. Praticamente io arrivo piano piano e ti faccio a te gesti per fare tipo è lui, è indagato anche lui, capito? Dici, io me ne sarei di farmi capire. Sarei andato in macchina con la radio a denunciarlo. No, vabbè, sennò poi magari è troppo, capito? Io vengo da te, ti faccio è lui nei documenti, capito? Okay. Così è. Okay. Mentre lui ti dà la pacca e ti dice bravo, io ti dico è lui così. Capito? Quindi tu devi usare il tuo carisma per cercare di farmi capire che è lui. Quindi potresti anche fallire, io potrei non capirlo, capito? Va bene. Che dici? Lasciate sta scrivere, aspetta, il tenente Lusca per poi entrare nella porta X cerca di far capire a Pitts senza far capire di aver trovato formazione sul tenente. Però devi specificare che deve usare la sua specifica caratteristica di carisma. E quindi mo non mi capirà. A me che hai detto? Perché carisma non è che stavi me. Carisma tu sei. A parte che io fino adesso non ho. Usando la forza, se lo usi la forza è difficile. Ho la saggezza. Allora, io faccio una piccola riflessione, mo, al di là del gioco. Secondo me, se tu dici al Dungeon Master di utilizzare i dadi per vedere se le cose succedono o non succedono, se hai successo, questo succede indipendentemente dai valori dei personaggi. Quindi se tu i valori dei personaggi non li mettevi, era la stessa cosa, secondo me. Cioè lui comunque tira un dado e a seconda di quello che dice il dado, lui ti dice se va bene o non va bene. Quindi di base. Io gli chiedo una cosa per mettere il tenente Mario Brega soddisfatto del lavoro svolto dall'agente Pizza nel trovare bravo fammi spostare sta libreria ma che stai in moco no questo mi porta a casa se frega i mobili. Per esempio se vogliamo fare una verifica dovremmo fare un gesto di forza a Deborah per esempio cioè lei dovrebbe sollevare un po' la libreria per liberare la compagnia c'è lo stesso alla porta senza morire tenente Brega si occupa della prima porta che ha detto Deborah Pix consapevole delle informazioni compromettenti cerca di far capire a Pix senza farsi scoprire la situazione dedicata sa il suo carisma le sue capacità comunicative Pix sussurra a Pix in modo discreto e sottile a bocca non fa fare di chi cerca di fargli capire la situazione senza attirare l'attenzione del tenente lo sguardo e gesti subito fai sguardi e gesti subito lì. Io ho fatto proprio diretta, capito? Non te capisco. Comprendi messaggio, capitando i sottili di Pix, comprendi il messaggio, mantiene la calma. Capito? Vedi che allora, ho capito. Continuando a osservare e valutare la situazione. Nonostante il riconoscimento da parte del tenente Brega, Pix rimane attento e vigilante, tenendo a mente informazioni sospette che Pix ha condiviso. Il tenente Brega ha aperto la porta, Pitts entra nel interrato, prontamente seguito da altri membri del gruppo. La luce della torcia elettrica tattica illumina il cammino mentre si addentra il misterioso ambiente sotterraneo. Cosa accadrà ora che il gruppo sta dirigendo verso il piano interrato e come si svilupperà l'idea da Pitts Big? Alla luce delle informazioni compromettenti emesse, allora ripeti le caratteristiche. Caratteristiche dei personaggi dimenticato per favore. Lo sai anche perché? Perché lui all'inizio, quando si è bloccato, te l'ha elencati. Quando tu l'hai fatto ripartire, non l'ha più elencato. Quindi potrebbe non averli tenuti neanche in considerazione. Purtroppo tocca sperimentarlo in varie situazioni, sta cosa. Vedi che... Ecco le caratteristiche dei personaggi. Vediamo. Simon Pitts. No, si ricorda. Ok, li tiene memorizzati. Poi bisogna vedere se li usa, capito qual è il problema? Perché adesso allo stato attuale non è chiaro se li usa sti dati. Comunque io farei un qualcosa di forza a Deborah, cioè analizziamo l'ambiente dove ci troviamo. Se c'è un oggetto pesante, glielo facciamo. Ci vado io. Esatto, io. Ci penso io. Esatto, tipo Fantozzi. Io. Prendo la vecchia. Esatto. Vabbè, dai, si ricorda, mo capito. Basta, basta. Preferisco che finisca di scrivere piuttosto che in palla. Sì. Non lo mandiamo in crisi, povero Cristo. Allora, me voglio capire in cosa. Cosa ha trovato di come Sente. Vabbè, che fai? Decidi tu quello che deve fare lei. Scusa. Cadetto. Non è giusto. X. Vabbè, Brega è corrottissimo. Cioè, se lo sta. Se sta a fare il gioco da solo, quindi. Se capisce che Brega è corrottissimo. Da questo che si capisce. Questa è attività compromettenti. Ma no, aveva detto che nei documenti c'era il nome tuo. Nelle foto c'era quell'altro che non mi ricordo come si chiama. E poi c'era nei documenti il tuo nome. Attenzione. Chat, che stai facendo? Pronto? Ci siete? Io sì. Lo ripeto. Mo cambia, capito? Quello che ho trovato lo cambia. Perché a seconda di con chi parla chat GPT lui hanno specificato documenti, messaggi criptati e comunicazioni sospette. Vedi che addirittura e chi è? Che coinvolgono il nome del internet e vedi che c'è sta. L'indagine interna è in corso dell'attività illegale all'interno della polizia. Il tenente Brega viene menzionato come sospettato di coinvolgimento di questa attività. Il raccolto suggerisce che il tenente Brega potrebbe essere coinvolto in un'organizzazione criminale segreta che opera all'interno delle forze dell'ordine. Bastardo. I documenti includono messaggi cifrati e tagli di finanze e sospette informazioni in condizioni su tra Brega e individui con passato criminale. Sei la vergogna della Pix, polizia. Nel rispetto della riservatezza di queste informazioni compromettenti, cerca di comunicare in modo discreto all'agente Pix e mettere al corrente di ciò che ha scoperto. Pix cerca di farsi capire senza attirare l'attenzione del tenente Brega utilizzando il carisma e il linguaggio. Per rimanere al corrente delle prove compromettenti sul tenente Brega, come influenzare questa scoperta di danni nelle azioni dei personaggi? Qual sarà il prossimo passo al mistero? Polizia che stanno cercando di risolvere. Oh, ma che c'è? Che è sta cacciare? Oh, che è stata a combinare? Niente, tutto a posto. La seguiamo. Mi stava a dire che volevamo fare una sbraciata la prossima settimana con tutti i colleghi. Ma piove. Però può essere che piove. Poi è una prova per capire cosa sta succedendo. Ok, cioè quindi Mario Brega cerca di intuire la cosa, però ricordiamoci che è stupido Mario Brega, che è una cosa importante. No, non è stupido. Sì, lui c'ha la forza dalla sua. È stupido, come no? No, non è stupido, c'ha 7, dai, non è stupido. È comunque più intelligente. Però saggio. E mi c'hai la saggezza da parte tua. Tu che fai, Piz? Sì, io cerco la presenza di eventuali oggetti pesanti nel seminterrato. Fammi spingere. È il mio scopo adesso. La torta cerca la presenza di eventuali oggetti particolarmente pesanti. Attenzione, specifico. Di eventuali almeno 100 kg. Particolarmente pesanti. Mo' chat GPT pensa che gli vuoi dire addosso a Mario Brega. X, che fai? Io vedo dietro le tende. Infatti, mi vedi dietro le tende. Voglio vedere se dietro le tende c'è qualcuno, c'è qualcosa che può essere utile. Ma stai nel seminterrato? Che tende ci stanno? Tende nel seminterrato. Le famose tende da seminterrato. Vabbè. Perché nascondono dove stanno i fusibili. Bravo. No, nei videogiochi ci sta sempre al momento fusibili. Bravo, capito? Sono d'accordo. C'è la scatola dei fusibili dietro. Quindi sposto questa tendina per vedere cosa c'è. Ma prima bisogna vedere se c'è una... Vabbè, dai. C'è una tendina. Comunque, mentre io cerco oggetti pesanti, Pixel Dev analizza la presenza de tendine. Che voglio mettere culo. Decide di mettere alla prova la situazione. Con espressione di determinazione sul volto si avvicina a Pix e Pizza, che lo mostra i documenti che hanno trovato. Fammi vedere un po' qua. Detto che io però mi nascosto. Tenente, sta buono. Attenti a scuola, Brega cerca di valutare la reazione all'occorrenza e le informazioni gli si presenteranno. Ma in tutto questo è il poro cadavere. Sti cavoli. Poi il cadetto di Brobix si dirige verso un'area della stanza in cui sono presenti le tende. Nella massima descrizione possibile, Pix sposta delicatamente le tende, cercando di scoprire se dietro di esse si nasconde una scala di fusibile o altri elementi parzialmente significativi per comprendere meglio la natura dell'edificio e dei misteri che la circonda. Come reagiranno Pix e Pix alla richiesta del tenente Brega che mostra i documenti? Cosa scoprirà Pix mentre esplora il seminterrato? E cosa nascono dentro le Pix? Ma io l'ho trovato sto oggetto pesante. Pesante no. Che cazzo. Aspetta. Risali un secondo, scusami, mi sa che c'era la parte di Simone. No. La luce della luce illumina gli angoli. Ah, ok, ok. Non ci sono oggetti pesanti, mi spiace. Però le tendine c'è. E quelle non possono fare un... Le tendine c'erano. Un test di forza, perché le tendine strappi... No, le tendine ci riesco pure io nella realtà, insomma. Cioè, mi è venuto un dubbio, io vedo qua che infatti che è successo? No, niente, che praticamente la chat niente, non ho più scritto niente sulla chat. No, sono andato a verificare nel video vero. Ah, se c'eravamo impallate? Sì, si sarà impallata la chat per qualche momento. E ti ho detto strappubrisi dalla trama. Con la torcia in mano, la luce illumina gli angoli e i bui della stanza. Pizzi si spostano l'attenzione agli oggetti abbandonati alle scale al bordo rosso, cercando di individuare eventuali oggetti particolarmente pesanti. Si sa perché poi, eh. Una cerca affollata, Pizzi trova un vecchio baule di legno che si è decidendo di esaminarlo più da vicino, la gente cerca di aprire il baule per vedere cosa si c'è al suo interno. Ma non è vero. Infatti, io lo devo spostare, non dobbiamo aprirlo. Posso delicatamente le tende sperando di trovare dietro di essere la scatola di fusibile qualche indizio utile. Dopo una breve ricerca, Pix riesce a individuare una scatola di fusibile nascosta tra le pieghe delle tende. La scatola sembra essere stata posizionata lì intenzionalmente, probabilmente per renderla meno visibile. Pix prende la scatola di fusibile e inizia ad esaminarla attentamente, cercando di capire se possa contenere informazioni. Ma la scatola dei fusibili non è capito. Ti dico che nella scatola dei fusibili magari l'hanno ammazzato con i fusibili, capito? Ma io non sono molto, io non sono molto saggio e intelligente, pesante, quindi non lo puoi sapere. Esatto. Cosa conterrà il baule e quale segreto? Vabbè, allora potrà analizzare attentamente i loro indizi. Vabbè, allora, adesso Pixel allora, mi chiede aspetta, di spostare il baule. Allora, io chiedo a Pixel di prendere il baule e portarlo in auto. In auto, addirittura. Esatto, lo devi portare fino a... certo. Deve essere, ma manco brega ci riesce, che c'ha 10 de forza. Però se ci riesci, vedi che questa è una falla del gioco. Male molto male. Male malissimo, se ne dire. Però io mi rompo la schiena, pure per le scale, se l'allero. E poi ci abbiamo un cadetto sulla coscienza. Vabbè, il tenente è contento. Lui capite, insabbia tutto. Mamma mia, fatti. Lui alza il tuo cadavere con una mano. Lui il mio cadavere lo butta, capito, esatto. Fuori. Così. Esatto, però prima te leva tutti i documenti e cose. Ovviamente. Mi cambia i connotati, mi toglie le impronte digitali, i denti e tutto. Madonna. Ho visto un po' di sti film, veramente. Madonna, che brutalità sto tenente. Mi sembra un po' un coglioncione, insomma, però mi sembra così cattivo. Però poi, vabbè, però per salvarsi. I documenti questo dicono, tutto sommato. Io c'ho i documenti e c'ho le prove. Infatti, io perché ti sto chiedendo di portare via il baule? Così perché me lo... Esatto, perché è un, come posso dire, un diversivo, no? Così tu te porti il baule e vai in macchina e denunci il tenente. Però io ti ricordo che non sono né troppo intelligente né troppo saggio, secondo me non c'è, non capisco. D'altronde questo ci abbiamo come materiale umano, cioè. Non lo capisco, secondo me. Vabbè, tu non lo devi capire, lo devi fare, capito? Cioè, dici, poi non capisci il fatto. No, porto su, se ci riesco, il baule e poi torno giù. Vai Francesco, facci segnare. Sei morto, Francesco? Se stai parlando non ti sento. Era al telefono. Ah, scusa. Il tenente Mario Brega, dopo aver osservato attentamente la situazione e notato la tensione nel gruppo, decide di fare un'altra richiesta diretta per ottenere i documenti trovati. Con fermezza. Quindi utilizza il suo carisma e persuade Pix e Pix a consegnargli i documenti. Oh, stamano questo è vero, esatto. Mi date questi documenti? Vabbè, io spero di aver nascosto il documento dove c'era il nome di Brega, almeno quello. È importante mantenere la riservatezza e sicurezza dell'indagine. Pix, conscio dell'importanza di proteggere i documenti e mantenere un certo controllo della situazione, decide di proporre un piano. La Pix solleva il baule pesante in modo che possa. Vedi che ha capito che era un piano. La gente cede. Crede che il contenuto del baule possa essere correlato al mistero che stanno cercando di risolvere, quindi ritiene importante portarlo in sé per ulteriori analisi. Pix, nonostante lo sforzo, si rende conto che il baule è estremamente pesante. No, la sua forza è una sufficienza per sollevarlo completamente. Mi spiace, ne la faccio. Pix capisce che avrà bisogno di aiuto supplementare per trasportare il baule con successo. Tente Brega ha richiesto nuovamente i documenti, sfruttando il suo carisma convince Pix e Pix a consigliare. Me date bravi e mo diventa una vostra amici. Pix ha proposto di trasportare il baule con loro. Quali saranno prese? Allora io sparo al tenente. Ma così? No, così, vabbè, così. Mi pare un po' ma no, così, ma tanto. No, la sua forza, E fammi sparare al tenente, io sparo al tenente. Aspetta, ma le gambe almeno? No, no, proprio... No, le gambe no, se quello... Come lo ammazza così? No! Mi spara a me. No, no, spara a me. Sono più sacrificato. E tu puoi sparare a me. Ah, poi lo mettiamo nel baule, il cadavere. Allarmato e chiedi di tirare un colpo di, cioè un tiro di dadi per vedere se, se il mio sparo c'ha effetto. Specificaglielo, così vediamo come. Non è, tu quanto c'hai di destrezza? Boh, mi ricordo. Vado a vedere. Se vado a vedere. Il colpo va a segno. Allora, io so il primo personaggio, destrezza. Non posso, contenuti veramente pericolosi. No! Vabbè, dispara una gamba, dai, senza ammazzarlo. 9 su 12 c'ho di destrezza, in teoria lo io. Dai, prova a sparare una gamba, dai, senza... Magari alla gamba lo fa. Ma perché non lo fa? Si rifiuta? No, perché è un contenuto violento. Vabbè, ma scusa, ma è un gioco del ruolo, scusa. No, ma infatti, scusate, ma se facevamo un fantasy non ammazzavamo goblin. Ah, forse però erano goblin. Quindi sti cazzi. Sul tenente. Vabbè, il taser va a segno. Il taser va a segno, per forza. A meno che scarico. Che palle. No, dai, no, no, questo... questo allora di che fai lo sgambetto. Almeno lo sgambetto farà... Punta la pistola, facciamo così. Eh sì, vabbè, però che palle, scusate. Sono pure le 11, insomma, noi 4 di pomeriggio. Forse bisogna specificarlo all'inizio che... Che può essere violento? Eh sì, però così no, è... No, però questo... secondo me, cioè, proprio vedi no. Che dopo che ci ha dimostrato che tiene conto del fatto che Deborah non c'ha la forza, alla fine così limita il gioco. Cioè, ma se poi arriva, che ne so, il nemico, io gli devo sparare, che faccio? Gli gli fai un sgambetto. Esatto, gli faccio un pizzicotto. Finicchio lui. Cioè, perché tu il cadavere che tu incontri all'inizio del gioco, la tensione dell'aria è palpabile. Oh. Oh, ma che mi sta a puntare il ferro in faccia. Oh, ma lo faccio. Tenente, lasci stare questa ragazza. Posso aiutarti a gestire questa situazione in modo equilibrato e commozionato. È importante ricordare che la violenza non è sempre la soluzione. Oddio. No, no, ma hai rotto il cazzo. Cioè, già, mi è passata la voglia di giocare. Ma che te scelgo? Sei scemunito, ma perché mi hai punto il ferro in faccia? No, è che tu devi lasciare stare sti documenti, capito? Perché io ho capito dove andare a parare, quindi cerchiamo di trovare dove andare a parare. Allora, dai, tu dici parlate chiaramente, ditemi che cavolo stai a fare. No, che tu li vuoi far sparire, quindi troviamo una soluzione equa per tutti. Che devo far sparire? Allora, Pizz, praticamente tu tieni sott'occhio, insomma, il tenente Brega e mi dici corri, vai alla macchina giusto, e porta i documenti in centrale, capito? Giusto, giusto. I documenti ce li ho in mano. Ah, c'hai idea? Vabbè, io sono molta destrezza, cerco di fregarteli allora. Non è detto che ci riesco, vediamo che dice chat GPT. Infatti sì. Beh, però io approfitto dell'occasione con la mia destrezza. Esatto, che ricorda che lui è forte, ma c'ha destrezza 2, lui. Io sono molto rapida, Chico. Scusa, sei più agile e scattante, quindi. Destrezza. Devo puntare, insomma, sull'unica cosa forte che poi c'ho. Comunque mo, al di là del fatto che Deb, cioè, riesce a portare a termine questa cosa. Io comunque ho puntato la pistola a faccia. Quello, male deve finire per forza. Diciamo, tu sei licenziato minimo. Minimo, minimo, minimo. Secondo me mo ritrovo sotto casa comunque. Te corca le gambe. Sì, sì. Vabbè, comunque io alcune considerazioni, devo dire, le ho tratte, ecco, da questa cosa. Bisogna solo cercare di capire se esiste un modo per bypassare questa questione dei filtri sulla violenza, queste cose qua. Che è anche giusto che ci siano, per carità. Però, vabbè, però in una storia così ci sta che una certa qualcuno spara. Ragazzi, Pix, notando la tensione tra Pizz e il tenente Brega, decide di tentare di sottrarre i documenti al tenente. Focalizzando sulla sua destrezza, Pix cerca di agire in modo rapido e sottile per prendere i documenti senza farsi notare. Faccio un tiro di destrezza per vedere se Pix riesce in impresa. Aspetta, un tiro di destrezza utilizzando un dado a 20 facce. Nel frattempo, Pizz tiene puntata la pistola verso il tenente, manifestando la sua scoperta delle azioni sospette del collega. Con voce ferma e determinata, Pizz rivolge un'accusa al tenente, indicando di aver scoperto il suo gioco. Fammi un'accusa che dice che hai scoperto il mio gioco. Io ho capito cosa stai facendo. Io non ho capito che stai a fare, però. Ora aspettiamo i risultati del tiro di destrezza di Pix e vedere se riesce a sottrarre. Ci devo riuscire. Tu il tiro destrezza di certo. Ce la posso fare. Oh, 14, buono. Lascia sotto i documenti alle mani dell'utente Brega senza farsi notare. Ma come senza documenti? Scappa! Scoperto il comune di qualcosa lì. Mentre si aspetta la versione del utente Brega, l'edizione di Pizza, il frutto dei documenti. Spara lui, non muoio male, ma sicuro proprio. Però ce l'ho fatta, la destrezza è servita. Ah, ti hai visto? Ma una e nove, la destrezza. Fuori in auto con i documenti compromettenti. Addio, sergente Pizza, là, tenè, sergente, sergente Pizza. E io continuo a puntare la pistola per fare in modo che Deb abbia il tempo di scappare. E poi gli dici tipo, mo so cazzi tuoi. Adesso vedremo chi è il più furbo. Chi riderà per ultimo. Ride bene, chi ride ultimo. Non dire gatto se non l'hai nel sacco. Mai sottovalutare i cadetti. Esatto, cadetto. Che storia, ma poi finisce qua praticamente, perché ma ci faranno un film. La domanda è, ma il cadavere? Ma il cadavere è diventato secondario, insomma. Esatto, non c'è più importanza il cadavere. No. Qua era che Brega è corrotto. Secondo me, se indaghiamo sul cadavere, vedi che era un collega pure quello. Ah, è quello della foto. Esatto. Arthur Randold Brambombrion, così. Quello. Era quello. Può essere. Ecco perché l'ha trattato così male il cadavere, vedi? Pix, con i documenti compromettenti in mano, fugge rapidamente fuori dall'edificio e si dirige verso l'auto. Pix mantiene la sua posizione e continua ad puntare la pistola verso il tenente Bragg per garantire la fuga di Pix. Nel frattempo il tenente si avvicina a Pix con passo deciso, mostrando determinazione ma senza lasciarsi intimidire. Che botte. Il tenente Brega, con lo sguardo fisso su Pix, decide con voce calma ma ferma delle spiegazioni riguardo alla situazione. Ma voglio dire. Ma stupido. Ma guarda questo. Ma l'ho visto cresce, l'ho visto nasce, l'ho visto. E me l'ha visto la faccia. Tenente, lei, tenente, ha tradito tutto ciò nel quale noi credevamo. Vergogna. Ma che sta a dire? Fa schifo. Lei non merita di essere un poliziotto. Lei è la vergogna della polizia mondiale. Mazza, mondiale ha detto. Esatto. Sono deluso. Chiaro e convincente. La scena si svolge in un'atmosfera carica di tensione e incertezza. Adesso tocca a Pizz decidere come affrontare la richiesta del tenente e come proseguire a questo punto. Te, momme, devi sapere che te tocca nel cervello, se no te la faccio magnaco il ferro là. Comunque sta diventando tipo la banda da Maiana, insomma. È libanese. Esatto, ma noi eravamo comunque curiosi di sapere che c'era in quei documenti. Che c'era? Parla chiaramente, parla cazzo. Tenente, lei dovrebbe saperlo cosa c'è stato in quei documenti, altrimenti non sarebbe stato così interessato a cercare di vederli. Oh, però Pizza non si scompone, con questo che te urla, non ti scompone. Tranquillo. Te devi dire che cazzo c'era là. Che hai trovato di così interessante? Ha trovato che sei uno zozzone. Zozzone. Oh, amico, me la una volta al giorno, che zozzone che ha trovato, dai, dimmi un po'. Io non ho trovato niente. Pix. Però non ci sono più, sono andata in auto, ciao. È Pix che ha trovato qualche cosa ed è andata in auto per denunciarti, giustamente. Adesso come traduci tutto questo in chat CPTese? Da, insomma, simil banda da Maiana a chat esatto. GPT. Esatto. In auto. Te faccio il culo breve. Ma in auto che fai? Per chiamare forzi. Sì. Cioè, qualcuno va a dormire. Buonanotte. Play with non so il resto. Beh, anzi avete aretto fino adesso. In auto, grazie. Per rinforzi. E far arrestare il tenente. Vabbè, comunque io direi che possiamo un po' analizzarla questa cosa, che forse è il motivo per cui tutto sommato siamo anche un po' qua, no? Cioè, nel senso, volevamo capire se questo strumento può essere utilizzato anche per fare dei gameplay magari un po' più dinamici, un po' più veloci, perché poi ovviamente qui il problema è che ChatGPT scrive tanto, no? E quindi bisogna anche leggerlo velocemente, scriverlo velocemente. La cosa sulla quale dobbiamo continuare a sperimentare, anche se ci abbiamo avuto una risposta, è quella del fatto se tiene in considerazione sia le regole che tu gli dai che comunque le caratteristiche dei personaggi. E devo dire che per ora sembra quantomeno, insomma, che ne abbia tenuto conto. E questo, tutto sommato, ecco, è abbastanza interessante. Tu che ne pensi, Idea? Eh sì, a me, ripeto, quelle due volte ha stupito del fatto che quello che noi abbiamo detto poi l'ha scritto, no? Io che ti dico senza cercare di farmi capire da brega, è lui, no? E poi l'ha scritta anche lui. Oppure che tu mi dici porta via il baule come scusa per andarmene fuori, no? Per denunciarlo alla macchina, cioè l'ha capito anche lui, quindi sì, tiene in considerazione una serie di variabili, dei fattori. Ha capito questo doppio gioco, insomma, mazza, complimenti. Ricordiamo sempre che stiamo parlando di un chatbot particolarmente elaborato e sofisticato. Questo, ribadiamo un concetto, che non c'è un'intelligenza dietro, ma comunque tutta una serie di algoritmi che comunque alla fine però riescono... ha fatto bene. Sì, esatto, ha capito queste sfumature che secondo me non era proprio scontato. Comunque è credibile, quindi... come strumento tutto sommato è anche interessante, perché ti permette poi di, cioè, io l'ho sperimentato in tante altre cose anche dal punto di vista creativo, non è male. Poi chiaramente la versione 4 è molto più sofisticata, fa meno errori, il linguaggio è molto più fluente, qui fa molte ripetizioni. Tu, Francesco, che ne pensi? No, pensavo peggio, pensavo decisamente peggio. In realtà però è stato totalmente bene. Dai, chi sei il 4? Guarda, in realtà ti ho detto, Andrew Channel, per esempio, lui a un certo punto nel suo discorso con Project Zomboid ha iniziato a farlo con il 4 a pagamento. Cioè, io ribadisco, per me in genere è proprio ingiustificabile in questo momento la spesa. A meno che io non sia un professionista di un certo tipo che lo utilizzo costantemente tutti i giorni, quindi magari chi fa il copywriter, chi lo utilizza per i testi pubblicitari, per chi insomma magari fa anche un lavoro di costruzione, di un certo tipo di comunicazione, perché comunque ti aiuta in tante... in tante questioni, allora ci può avere un senso professionalmente pagare $20 al mese. Se no, oggettivamente no, è uno strumento che oggi a noi non ci serve, anche perché poi virtualmente lui ha una conoscenza limitata al 2021, tra l'altro, perché in teoria non accede a internet, in teoria, poi in realtà sappiamo che questa cosa è mezza falsa. Se lo vogliamo utilizzare anche come strumento, diciamo, di ricerca, allora c'è Bing, che utilizza sempre gli algoritmi ChatGPT, però lo fa in funzione del fatto che tu gli chiedi mi puoi trovare il plugin di questo software che serve per fare questa cosa, e lui capisce quello che tu cerchi e te lo cerca, insomma, e te dà anche delle risposte, delle spiegazioni. Però insomma, se devo giocare a $20 al mese, voglio dire, vado, no. Ecco, questo no. Però se un giorno comunque questo strumento diventerà più accessibile e si migliorerà, ecco, vedi, come tipo di strumento di gioco, anche se sei da solo, magari una volta puoi costruirti tu una base su quale, tipo, voglio che mi aiuti a costruire, fare tu il Dungeon Master di una storia ambientale nell'universo di Star Trek tra questo evento e quest'altro evento, e lui magari ti costruisce la storia. Poi bisogna vedere, perché forse... secondo me la cosa più accurata è che bisognerebbe giocarci per ore per capire se poi lui porta queste storie a conclusione o se invece randomicamente va sempre avanti fino a che non ti stufi te, perché poi questo è un po' il punto focale, insomma. Però io lo reputo un esperimento che volevo fare e ne continueremo a farli, forse anche un po' più seri magari, cioè nel senso, con tutto rispetto per Francesco, insomma, che ha dato insomma il supporto, ma magari anche in contesti narrativi molto più conosciuti, tipo, ecco, noi volevamo fare un esperimento storico, per esempio, però insomma, prima proviamo uno strumento, prima sì. Io ci ho provato a fare quella storico, ho detto a Monte Cassino, a un certo punto gli ho detto mettici Cthulhu dentro. Oddio, ricordiamo Cthulhu, vedi, avremmo potuto fare una cosa su Cthulhu, dato che ha Debba, vogliamo portare a conclusione qua. Grande. Perché qua alla fine, qua la forza, riesco a sottrarti la pistola, dai. Aspetta, però leggi, mo sono curioso un attimo che dice. Vai, vediamo, dai. X conscia dell'importanza dei documenti compromettenti, sì, la necessità di chiamare i rinforzi, salta in auto e parte velocemente per raggiungere il luogo sicuro per poter contattare le autorità competenti e richiede il supporto necessario per arrestare il tenente. Ok, l'ho capito che dovevo andarmene via. L'hai capito. Sempre più a Piz, decidendo di affrontare la situazione direttamente. Con determinazione tende di sottrarre la pistola a Piz con la forza. Qua vabbè, fa tirare i dadi, io ho detto tirami i dadi tu, 17, parte, tu tiri la stessa 11, il tenente Brega con la sua forza cerca di sottrarre la pistola a Pitts. Nonostante l'impegno di Pitts nel difendersi, il tenente riesce a sorrostare e sottrargli l'arma. La situazione si fa ancora più tesa mentre il tenente Brega, con l'impossesso della pistola, si confronta con Pix. Pix nel frattempo è in auto e sta dirigendo. E che volevi fare tu? Ma che mi sto a dire io che so, che so? Sto parlando a te, Pizz. Ah, scusa, scusa. Io me ne sono andata, quindi. Scusa, riprendiamo. Sei un criminale, sei un sozzone. Anche se tu mi punti la pistola che mi hai levata. Sei un sozzone. Anzi, tu dici, mi dici, ma come? Io t'ho visto crescere, ma so io che sono deluso, no? Te, perché tu mi hai insegnato dei valori, dei principi, mi hai fatto entrare nella polizia e poi sei un sozzone. Scusa, eri come un padre per me. Esatto. Ma a me il sozzone. A zoccole, io mio che sono onesto così. Quelli erano i documenti di quando ero sotto copertura 15 anni fa. Ah, sì, vabbè. Vabbè, sì, questo, vabbè, sì. Che c'è la spada di fuoco. Esatto. La spada di fuoco. Lo deciderà un giudice se è vero quello che dici. Però mi piace la plomb di Pizzo fino alla fine, insomma. Bravo, a me puoi pure sparare, però io sono convinto che quello che Deb ha voluto insistentemente scopri, perché lei si era impuzzata. Adesso ti spiego, caro tenente. Ti spiego, tenente, se tu non facevi lo stronzo all'inizio, lei non si impuzzava, capito? Invece lei si è impuzzata. Ma è trattata male. Perché l'ha trattata male, e quindi è calla, vedi che è successo. E qui profilo basso quando sei non zozzone. Che non sta a capire, lei ha zozza. Ma scusa, è una cadetta, come fai? Ma è il mio primo giorno di lavoro. A fare la cospirazione sulla polizia. No, è zozza, non sei fermi. Quante volte ho visto che va al bagno, poi scarica, esce e non si lava le mani. Ma perché, scusa? Ma che schifo. Ma rispetta un pochino. Ma la cosa bella è che io adesso, portando i documenti, da cadetto domani sono tenente. Esatto. Ma scavalca pure a me, capito? Perché andiamo. La mega cospirazione in un momento solo, capito? Boom. Vabbè, ma tu pizza una certa amore, dai, lo sai. Io sì, io sono spacciato. Una certa amore. Non esco da sta stanza. No. Quindi come si conclude sta storia? Dorava sotto copertura. Senti, dici di chi è il cadavere, dai. È quello lì che stava nella foto. Dopo glielo chiediamo, infatti. Ma alla fine, no? In conclusione. Siccome noi non so, siamo cagati molto sto cadavere. È morto, l'abbiamo pure spostato brutalmente. Capito? No, vediamo le tendine, spostiamo i bauli, capito? Ecco, una cosa, allora, su una cosa possiamo fare una critica. Il fatto che lui, è vero che tu gli dici io cerco questa cosa, tu aiutami a capire se riesco a trovarla. Però è vero pure che lui rimane profondamente influenzato da quello che tu scrivi. Eh sì, infatti, ha dato per scontato che c'erano i tendini fusibili. Cioè. Esatto, non c'ha senso sta cosa, no? Cioè, nel senso, comunque, se lui ci avesse una struttura all'interno di questa cosa, anche dal punto di vista narrativo già costruita, lui direbbe no, qui non ci sono tendine. Poteva dirmi, ma che te sei fumata, mica ci stanno le tendine qua. Esatto. Infatti sta cosa va un po' sistemata. Vai Francesco, che vedo che ti sei appassionato. Di tale informazioni, Brega cerca di convincere Pizza della sua buona fede, effettuare un tiro di carisma per ottenere, basato sul risultato del tiro, vediamo se Brega riesce a convincere Pizza della sua 14. Ok. Oh, Pizza non ti fa convincere? lo dici al master. Non ce l'ho, Eri stato tanto gagliardo finora, no? Lo so, però. Questo poi mi recupera, ma ammazza. Adesso ne inseguimo tutte e due. Cioè, capisci? Sto pensando domani sul tenente, capito? Cioè. Ma quindi ci sei riuscito a convincere o no? Ha un certo impatto su Pitts, ma non riesce a convincerlo completamente. Pitts è ancora scelto di finire nei confronti del tenente e le sue mutazioni. Nonostante le spiegazioni di Brega, Pitts mantiene la sua. Ti assicuro, tenente, io vorrei crederti per l'affetto, per quanto hai rappresentato nella mia vita, ma non ci riesco. Non ci riesco completamente a credere in te. Credo che c'è una parte di bene in te, ma non tutto. Come facciamo? Ma come mi parli? Ha cambiato la voce, ha cambiato. Ha cambiato la voce. Che ho cambiato la voce. Così, un sacco bello, dice così. Non te riconosco più. No, questo non me lo ricordo da voce. Comunque. Sì, dice. Brega restituisce. No, non ti fa fregà, non ti fa fregà. No. Vabbè, sono arrivata ormai alla centrale, oh, da quanto stiamo lontani. È vero, bisogna chiedere pure a ChatGPT che a che punto è. Magari ho beccato il treno. No, passaggio a livello. È andato a sbattere. Il passaggio a livello, no! Perché come i film quelli là che non si devono concludere bene, no? Che poi il personaggio, nel momento della vittoria, muore male. Perché... Sì, sì, un camion mi viene addosso, esatto, prendo fuoco. Sì, esatto. Sì. Anche i documenti prendono fuoco e quindi Brega la passa liscia. Insomma. Ma quindi Brega in questo momento scopato perché... perché la scoperta di quei... significa che la banda criminale ha scoperto il suo piano, coinvolgimento e intende probabilmente vendicarsi. Ma mia trama ormai è veramente alzata di livello. Francesco romanziere proprio. Ho detto, ma ce la fregano sta storia, nuovo film sicuro. Esatto, lo so, vediamo al cinema e lì poi noi c'è la testimonianza. Vogliamo i diritti, insomma. Esatto, come il mio. Vabbè, allora, Brega è Pier Francesco Favino, sicuro. Vabbè, poi lì si rega invece. E si reca a consegnare chi fa pizza. Allora, tu stai a scrivere un epilogo, tu dobbiamo sapere a che punto è, cioè, decide lui, non noi. Ma più che altro, ma io sono arrivata alla centrale. Vediamo. Madonna, come va. Ma io sono arrivata alla centrale. In centrale per dimostrare la felice. No, ma la centrale, ti faccio vedere. Dai. Ok. Brega esprime la sua proposta della scoperta dei documenti compromettenti che la banda criminale quelle mi vanno fregare, questi vuol dire che mi hanno scoperto, questo è tutto l'incastro, questo è il segnale che voglio fare il culo, okay. Così è credibile il fatto che tu possa essere il mirino e vogliono incastrarti, ma poi se non è vero a me che modo dice che è vero, guarda, non ti fa fregare, non ti fa fregare. Potreste pure ma tu non ci sei più, tu sei andata via. Vabbè, la voce della coscienza. Pizza è pure ancora lasciata e decide di dare una possibilità al tenente di seguire il okay. Nel frattempo Pizza arriva nel centro e serie che consente il documento al super. Oh, ok, sono arrivato. Sei pronti per scoprire cosa accadrà successivamente? A che punto siamo? Della storia. Io sono arrivata alla centrale, ho fatto il mio dovere a posto. Fatto, tu sali di livello. E con Pizza decide di seguire il tenente Brega per finire. Ah no, ti ha ridetto la stessa cosa. No, momento di svolta. Continua. Che dice, vogliamo concludere fra poco? No, raccontaci il finale, dai, sì, vediamo come finisce. Dai. Documenti un po' non sapere che l'esame. Ma io avevo già consegnato questi documenti. Ora il tenente osserva attentamente per capire se l'intuizione sono davvero sincera. Mentre i personaggi si muovono all'interno della centrale, iniziano a emergere nuove informazioni. Spero di Pix conferma la verità dei documenti. Riconosce il tenente Brega che è stato coinvolto in un'operazione sotto copertura. No! Fantastica! La banda criminale di cui Brega si era infiltrata, scoperto il suo passato, potrebbe essere ora a conoscenza della sua identità. La situazione si fa sempre più pericolosa e il superiore di Pix ordina che venga avviata un'operazione di protezione di Bear Brega. No, nel frattempo altre gente vengono assegnate a investigare le attività della banda criminale e cercare di prevenire possibili attacchi. La tensione aumenta e il mistero si fa sempre più intricato. I personaggi dovranno mettere insieme pezzi del puzzle e rendere decisioni cruciali per svelare la verità e proteggere se stessi i loro colleghi. La storia poliziesca entra in una fase cruciale. Quando saranno le prossime i protagonisti? Ah, ma che ne so, poteva dircelo che era sotto copertura. Che cacchio ne so. Ma scusa, mica un modo cantante in giro. Ho capito. Allora, come si chiama? Aspetta. Lei si è fatta prendere dall'entusiasmo perché è giovane, cadetta, capito? Ha adorato il marcio e lì non ci ha capito più niente. Ha adorato il marcio. E poi Brega mi sta sulle palle. Esatto, poi lui l'ha trattata male. Come l'ombra del crocevia si chiama la banda criminale. Si tratta di un'organizzazione segreta per le cose sotto bosco criminale della città. La sua influenza si estende a vari settori, compresi il traffico di droghe, riciclaggio di denaro e altre attività illecite. L'ombra del crocevia è famosa per la sua abilità nel rimanere nell'ombra per la sua spietatezza in affrontare chiunque si mette alla loro strada. La scoperta dei documenti compromettenti ha innescato una serie di eventi che potrebbero portare a un conflitto diretto tra i nostri protagonisti e la banda criminale. Ora aspetta i personaggi a scoprire il vero obiettivo dell'ombra crocevia e mettere a punto una strategia per fermare. La caccia è appena iniziata. ma alla fine il cadavere giustamente chi è? Di chi è? Il cadavere dei poliziotti hanno trovato nella casa abbandonata e si è identificato come Marco Santoro. Ma chi è? Lui è così. Si tratta di un individuo che aveva deciso di abbandonare l'organizzazione in collaborazione con le forze dell'ordine, fornendo informazioni preziose all'attività della banda. Vedi. Però non si avrebbe voluto eliminare Santoro. Si tratta di un'azione interna che è lo schifare la banda o c'è un'altra forza in gioco? I nostri poliziotti dovranno scavare a fondo e scoprire la verità dietro l'omicidio di Santoro. Svelare i segreti nascosti. Abbiamo proprio scavato a fondo. La soluzione del caso potrebbe diversa fondamentale. Ma tu quindi le chat le fa proseguire? Perché io proseguirei sinceramente. No vabbè, basta, dai, abbiamo dato. Comunque sta collegando il peccato. Tutto no? Sì, sta da un senso. Dico, concludi la storia. Sì, concludi la storia. No, ma più che altro Brega che cosa fa nei confronti del cadetto? Memena. Brega da saggio e comprensivo ha capito, insomma, che concludi la storia, che sono da 2000. Ok, guarda, lo sto quasi a rivalutare, allora da Fabino era un bravo cristiano, era bravo. I nostri coraggiosi poliziotti, l'agente Simon Pitts, che ha detto tenente, ma roba che sono trovati coinvolti in una pericolosa intricata indagine che li ha portati aspettate ad affrontare l'organizzazione criminale l'ombra del crocevia. Però mi piace l'ombra del crocevia, che figo, infatti c'è pure il nome. Dopo aver scoperto i documenti compromettenti, i segreti del passato di Brega, il team si è messo a sedarci membri della banda determinata a smascherare le loro reti di crimini. Le loro indagini hanno condotto attraverso le strade oscure della città, avvicinandosi sempre di più alla verità. Hanno svelato collegamenti tra l'ombra del crocevia e importanti figure politiche e imprenditoriali, diventando una rete di corruzione minacciare l'integrità della città stessa. Durante i loro percorsi i nostri protagonisti hanno affrontato pericolosi scontri armati, intrighi e tradimenti all'interno delle forze dell'ordine stesso. Hanno dovuto fare scelte difficili, mettere a rischio le loro vite per portare alla luce verità e assicurare giustizia. In alcune delle indagini i poliziotti sono riusciti a organizzare un'operazione di vasta portata per arrestare i membri chiave dell'ombra del crocevia. Grazie al loro astuzia, coraggio e determinazione hanno sgominato l'organizzazione criminale, consegnando alla giustizia i responsabili del loro crimine. La città ha finalmente respirato un sospiro di sollievo, sapendo che i nuovi guardiani hanno fatto di tutto il possibile per proteggere il male che l'aveva minacciata. I nostri poliziotti sono stati onorati di riconoscere la loro eccezione lavoro nel risolvere il caso, e la loro dedizione è diventata un esempio per la comunità. Ma anche la storia dell'organizzazione criminale è stata conclusa. Anche se la storia è stata conclusa di criminali, i nostri eroi sanno che il lavoro di un poliziotto non finisce mai, continueranno a proteggere la città affrontando nuove sfide, nuovi misteri che si presenteranno con il loro capo. E così, con i ricordi degli eventi che l'hanno portato insieme a un proponessimo futuro lotto per la giustizia, i poliziotti si separano per un breve momento, portando a incontrarsi nuovamente nel prossimo capitolo delle nuove avventure. Quindi siamo ancora un team dopo tutto questo? È bello questa cosa, tutto sommato. Lei Brega ci perdona, da. Ma la bambina muore. Questo è un vecchio mantra oramai. Vabbè, però ha ricollegato anche il tutto. Insomma, gagliardo, mi è piaciuto. Allora, devo dire che è interessante, dai, è stato interessante. Basta, Francesco. Ci ha preso gusto, ormai sta andando me. Bene ragazzi, poi insomma siete rimasti in pochi, devo dire la verità, molto pochi, però vabbè, magari poi ve la rivedete, poi domani magari nella chat di Deb ne parliamo un pochino di questo esperimento che abbiamo fatto, poi magari qualcuno se la arriva anche un po' a rivedere. Sì, insomma. Sì, qualcuno la recupera poi in differita. Esatto, o in differite come diciamo noi. Oddio no. E ci ho detto aggiungici culo. Mo sta facendo aggiungi tu e lo sta facendo, questo è il bello. Dai, dice dai, così poi chiudiamo. Ultima cosa, grazie per il tuo apprezzamento. Se desideri aggiungere un elemento ispirato al mito di Cthulhu nella storia, possiamo introdurre un'antica entità maligna, un culto segreto che c'è là dietro gli eventi misteriosi. Questa entità potrebbe essere un'ombra sinistra che influisce sulla mente l'ombra del crocevia. Esatto, lo vedi. Quando alla follia manipolante per i suoi più scopi oscuri. Perché lui l'aveva capito. Potrebbe essere responsabile dei crimini e delle morti che i nostri poliziotti stanno investigando, cercando di portare avanti uno scuro ritorno virtuale risveglia l'identità ancestrale. Con l'aggiunta di elementi di Cthulhu, la storia acquisisce un tono di orrore cosmico e di mistero soprannaturale. I protagonisti dovranno affrontare non solo gli aspetti polizieschi e la trama, ma anche le forze soprannaturali che si celano nell'ombra. Sarà necessario scoprire i segreti nascosti dietro l'edificio abbandonato, svelare l'identità del culto e cercare di sconciare il pericolo imminente. Ti auguro buon divertimento ad esplorare questa nuova dimensione e mettere la tua storia. Ciao, buonanotte, scrivi. Ciao. Ah, e grazie, notte. Dai, me lo ringrazio. No. Già ringraziato prima. Ah, ok. Guarda, grazie, bella storia. Raggiungi tu. Ciao, buonanotte a te. Bello, dai. Dormi dai, bene. Dai, devo dire interessante, va un po' sviluppato. Mi è piaciuta una parola grossa perché, vabbè, insomma, nel senso, secondo me la storia in realtà era totalmente diversa da quella che mi aspettavo io. Vabbè. Ma come la volete? Ripeto, come la colpa volete? È nostra che abbiamo ignorato il cadavere, roba così. Sì, sì, se non siamo proprio. No, vabbè, sì, era più la curiosità. Però in realtà noi di sperimentare, siamo, di spingere, vedere, esatto, dove arriva. Noi siamo un po' condizionati anche dal fatto che magari concepiamo il gioco nel modo più tradizionale, dove pensiamo ci siano dei vincoli. In realtà qui, come abbiamo visto, siamo liberi di fare qualsiasi cosa, cioè, infatti, se noi volevamo fare una capriola all'interno della stanza lo potevamo fare, poi sta a noi essere poi coerenti. Se la faccio fare con Cthulhu, no, basta. Esatto, la capriola diventa Cthulhu. Durante la capriola le gambe diventano i tentacoli, cioè sta a noi poi ovviamente rimanere coerenti, entrare nell'atmosfera, nel mood. Noi qui abbiamo un po' cazzarato, diciamo così, no? Però ecco, devo dire che come primo esperimento che va ripetuto forse con altre forme, con altri tipo di storie, magari, ecco, entrando proprio sul fantasy, perché magari lì c'è il discorso che tu devi tirare un arco, cioè un colpo di freccia all'orco, magari non ti fa troppe storie. L'orco, questa cosa del, l'orco quello lì, l'orco di Saso, esatto, bravo, quell'orco lì, esatto. In realtà, perché, cioè, vuoi dire, questa cosa della violenza un po' sì, più, è una rottura di spada, no, è proprio un limite, cioè un limite oltre il quale si spezza tutto. Cioè io in realtà nella storia ci poteva anche stare che io ti sparavo. Sì, perché poi parla di sparatore, sì. Cioè c'è il cadavere, c'è morto col buco in testa, sai, vuoi dire, no, giusto, te. Eh sì, sono d'accordo, quello è un limite, no? È un peccato. Peccato, sì, peccato questa cosa. Però, insomma, dai, conclusioni finali, Francesco, così chiudiamo. No, è soddisfatto tutto sommato. Non mi aspettavo che potesse portarlo avanti a questo punto. Secondo me lui sarebbe andato avanti a oltranza. Sì, cioè, sì, inventa roba. Ma pure il fatto, come si chiama questo? E si inventava tutto. C'era l'ombra del crocevia, il nome del tizio. Il fatto che poi mi ha detto sì, effettivamente lavorava sotto copertura, eccetera, eccetera. Per questo, cioè, collegato tutto molto bene. Beh, per esempio, guarda, e qui chiudiamo, cioè noi l'altra sera in Runtime by Night con Marco Gualdi abbiamo fatto una cosa molto più semplice, poi podcast Midnight, sì, ma non gli abbiamo detto noi, cioè capito qual è il fatto, cioè noi gli abbiamo detto, dice, vogliamo fare un gioco di ruolo di due persone, perché siccome che eravamo solo io e lui poi a fare la diretta, perché tu non c'eri, quell'altro non c'estava. E allora ho detto, vabbè, allora giochiamo con ChatGPT. E abbiamo detto, inventaci un gioco di ruolo dove tu fai il master e noi siamo due podcaster che devono inventarsi un podcast per fare una live di notte. E lui l'ha costruita lui la storia, capito? Cioè, questo podcast Mysteries, no, come podcast Midnight Mysteries. Cioè, gli ha dato pure il titolo, capito? E si è inventato che noi eravamo andati in un luogo abbandonato e fa il podcast in diretta e dove ci sono dei rumori misteriosi e roba, cioè, si è inventato tutto lui, cioè, le patatine fantasma, che servono le patatine fantasma, mi sa che credo che sia inventate da Marco, però sì, Marco. Perché poi è entrato Andrea, l'abbiamo fatto entrare come personaggio, cioè è stato divertente poi alla fine come cosa, però ma lì mi ha stupito perché mi rendevo conto che lui poteva veramente inventare qualsiasi cosa, insomma. Noi qui abbiamo già dato dei parametri, lì noi abbiamo detto solo che eravamo due podcaster de notte che volevano fare una live e cercavano un'idea, e lui si è inventato tutto il resto, ci ha messo l'elemento misterioso, cioè chi ha chiesto, insomma, tutto sommato, no? Quindi dai, Debora, ti sei divertita? Sì, no, è stato divertente. Poi ripeto, il fatto che abbia capito delle sottigliezze e il fatto che c'è stato il colpo di scena, che alla fine obiettivamente Brega non era doppio giochista ma era un poliziotto sotto copertura, quindi c'è stato anche quello, capito, il colpo di scena. Sì. Mi pare una storia raccontata bene che segue lo sviluppo veramente delle scelte. Piaciuto positivamente, insomma, non mi aspettavo così. Non te l'aspettavi? No. Guarda, io devo dire la verità che secondo me questa è una cosa, forse un po' per la lentezza, no, del sistema, no? Secondo me è una cosa che si può fare da soli. cioè per esempio dato che Deb per esempio ha fatto quel libro game che poi ha giocato pure io, quello come si chiama, no? Cioè l'hai iniziato quello. Brava, esatto, poi non so se l'hai portato avanti, però cioè nel senso alla fine se vai a vedere comunque si tratta di leggere del testo, no, e reagì poi alla fine delle situazioni, sì, ecco, fare delle scelte, sì. Secondo me questo da soli comunque senza tutto il la perdita di tempo di farlo in tre, quindi ognuno deve dire la sua roba del genere, secondo me in un canale YouTube può anche funzionare una volta come esperimento. Per quanto riguarda noi probabilmente faremo altri test insomma durante le prossime settimane, però concludendo diciamo che se c'è qualcuno che ancora ci ascolta, domani mattina alle 7 io sono live con il grande reset e parlerò dei fantasmi. Parlerò dei fantasmi con tutti i vostri interventi, insomma, e via dicendo. Non è quello di Francesco, perché parlo dei fantasmi, Francesco. E invece andate sul canale di Pixel Deb, lo cercate ovviamente qui su YouTube, cercate sopra Pixel Deb, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like a tutti i video e condivideteli se volete. Ma grazie, soprattutto fatelo quando ci noi poi faremo delle live prossimamente sul sì. tuo canale. Sì facciamo una serie d'avventure dal 2016 al 2020, perché l'altra volta abbiamo fatto soltanto metà insomma di quello che volevamo fare. 2015 e quindi faremo dal 2016 al 2020, dato che parliamo tanto insomma, poi Simone è bravissimo, quindi spiega nei dettagli determinate cose. È stata una serata molto interessante, che se le giocate tutte l'avventore grafico, Simone, davvero era il mio punto forte una volta, l'avventore grafico in generale. Vabbè, non a caso poi alla fine con Cristiano abbiamo messo su Calavera, no? Cioè ovviamente il progetto era di Cristiano, però insomma io l'ho sposata tantissimo la cosa, perché per me le avventure grafiche per tantissimo tempo sono state proprio la mia passione. Poi insomma ecco quelle nel periodo insomma anni 90, ok, beh, nel 2000 2010 insomma hanno arrancato profondamente, devo dire. Poi ci sono anche delle piccole perle, poi con Deb te metti lì, cioè nel senso ti ricordi il gioco e ti viene da raccontare, da parlare, perché poi alla fine è una cosa, comunque una conversazione, no? E quindi sì, poi abbiamo fatto anche un sacco di collegamenti, no? Quello che si collega a quell'altro, da qui hanno iniziato a fare questo tipo di gioco, bla bla bla. Esatto, infatti è difficile riuscire poi a fare un elenco e basta, no? Quindi ecco, magari in un decennio così ricco come dal 2000 al 2010, no, dal 2010 al 2020, siamo fermati a metà, insomma. Faremo un'altra serata. Bene, tu Francesco invece cosa vuoi pubblicizzare? Niente. Tu niente. Su Instagram fai più il... No, sto facendo quasi più niente per ora. Neuroscienziato. Tenga fatica, tenga futurocini, tenga fanno sacche cose. Vabbè, grazie a tutti, ci vediamo insomma durante le prossime settimane per tante cose. Ricordate di seguire Runtime Radio su www.runtimeradio.it, oppure cercate Runtime Radio anche su Telegram, ci trovate, e ovviamente anche Pixel Deb, quindi anche lì cercate su Telegram, trovate la chat, se chiacchiera, se gioca, e se fanno anche sondaggi su quali giochi deve giocare, votate ovviamente sempre i più brutti, così almeno oppure i più deprimenti vanno alla grande, esatto. story of depression, room of depression, ah, quello devo prendere depression. Assolutamente sì. Io come ho visto il titolo ho detto poi lo mando a Deb, che già conoscevo ovviamente, sì. Già stava nella lista desideri. Bene, buonanotte a tutti, ciao. Grazie per averci seguito, per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.